È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Crederete, cari ascoltatori della Zanzara, ma io ho cacciato da questa trasmissione il mio socio. L'ho cacciato ufficialmente oggi. Adesso protestate, fate quello che volete, cominciate a scrivere le mail, cominciate a fare telefonate. Ho cacciato da questa trasmissione, c'è stato un diverbio, un litigio, ho cacciato da questa trasmissione il signor Parenzo, il signor Davide Parenzo, che oggi dunque non sarà in onda, non sarà in onda. Però noi ce ne fottiamo. Noi ce ne fottiamo e andiamo dritto per la nostra strada. Magari ci riconcilieremo, non lo so. Oggi non ci sarà e forse neppure domani. Invece chi si vuole ripresentare alle elezioni regionali nel Lazio è il signor Batman o federale o quello che è, cioè Fiorito. Sentite. Se andate alle elezioni lei si ripresenta? Perché non dovrei. Senta, questo lo dirà agli elettori, perché non io con gli elettori ho sempre avuto un grande rapporto, a differenza e di qualcuno. E pensa di farcela? Penso proprio di sì. Innanzitutto bisogna dire una cosa: quando va in televisione fa alzare lo share di tutte le trasmissioni. È successo con In Onda, è successo con In Onda domenica scorsa, è successo ieri con il signor Del Debbio, con il signor Del Debbio che pure aveva iniziato bene, e questo è un fatto, cioè sfonda in televisione il ciccione là, insomma, adesso non voglio essere lombrosiano, ma insomma, il signore in carne, 130 kg, più di 130 kg, ci ha detto qui alla Zanzara, cioè dire Fiorito. Però c'è stato uno scazzo magnifico, uno scontro superbo con la Santanchè. Sentite e ditemi secondo voi chi ha vinto. Dovrebbe aiutare pure lei molto le famiglie in questo momento. Tu vergogni, cambi paese, deve andare. Lasci stare, guardi, in un partito che c'è anche lei, io mi sento a disagio. Deve sparire. La Santanchè a un certo punto non si teneva più, ha detto lei si dovrebbe mettere la faccia di maiale. Io sono una che lavoro da sempre e non ho neanche mai preso lo stipendio da parlamentare, sì, sì, perché l'ho sempre devoluto. Lei è uno che si deve vergognare, no, deve, guardi, scomparire, deve stare mettersi la maschera con lei. Del maiale. Capito? Vedi. Va bene, al di là di questi diverbi, fra poco vi presento il primo ospite della serata. La cosa incredibile è che le spese pazze non solo della Lazio ma di tutte le regioni sono, le possiamo capire da queste frasi. C'è un signore dell'UDC, ma potrebbe essere anche di un altro partito, che si chiama Gigli. I giornalisti gli chiedono, è un consigliere regionale, ma lei quanto guadagna? E lui dice non lo so. Cioè ci sono delle persone che non sanno nemmeno quanto guadagnano, non lo sanno, perché in realtà i soldi non sono importanti, ne arrivano tanti oltre allo stipendio. Arrivano i soldi ai gruppi che poi loro utilizzano, 100.000 euro l'anno nel Lazio, in altre regioni anche di più. Sentiamo Gigli. Posso chiederle come consigliere quanto guadagna? Non lo so, guardi, guadagno quanto gli altri, quindi non è difficile per voi accertare qual è l'entità esatta dei nostri. Tanto poco. Ma questo è tutto relativo, sa, dipende. Non lo sanno, non lo sanno. Infine, per ultimo, c'è Montino, Esterino Montino. Nessuno di voi lo conosce, non è un insulto a Montino, è uno che prende un sacco di preferenze del Lazio, lo ripeto. Non è conosciuto a livello nazionale. È il capo del Partito Democratico nel Lazio, in pratico, comunque il signore delle preferenze nel Lazio. Non abbiamo rifiutato i soldi perché utili alle iniziative. Sentite, comunque non li hanno rifiutati perché nell'ufficio di presidenza li decidevano tutti insieme i soldi, anche l'Italia dei Valori. Potevamo rifiutarli, noi avevamo soltanto un modo per dire no, rifiutare, diciamo, la somma che ci veniva messa a disposizione. Non l'abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto che erano utili. Bene, con noi il primo ospite della serata, 800 24 00 24, Lele Mora, buonasera. Buonasera. Lele oppure? Gabriele, non Lele. Lele. Perché? Non c'è più, l'abbiamo archiviato. Ma come abbiamo archiviato? Lei era conosciuto come Lele Mora, adesso si vuol far chiamare Gabriele, che è il nome originale in realtà. Io mi sono sempre chiamato Gabriele. Quello sulla carta d'identità. Quello è Dario, ma mia mamma, che è la persona più importante della mia vita, mi ha sempre chiamato e mi chiama Gabriele ancora oggi. E adesso? Sono Gabriele. Ma perché? C'è una... deve archiviare il passato? Vuoi... No, nella vita si fanno dei cambiamenti, è giunto il momento di ritornare alle origini. Allora, Lele Mora, Gabriele Mora, ha fatto un anno e 40 giorni in carcere, è stato condannato per bancarotta fraudolenta, andrà a lavorare per Don Mazzi. Diamo questa notizia. Allora, io ho già incominciato da Don Mazzi, da domani 2-3 volte alla settimana ci sono e lavorerò lì come volontario, come aiuto, come faccio un po' di solidarietà. Non è che il tribunale me l'ha imposto, perché non ho ancora avuto la camera di consiglio dove il magistrato di sorveglianza sì. mi darà gli obblighi che dovrò fare, però è una promessa che ho fatto al Don e già incomincerò a farlo. Lei è fuori per motivi di salute, no? Io sono fuori per motivi di salute, appena sospesa, fino a quando il magistrato di sorveglianza con la camera di consiglio sì. mi daranno gli obblighi. Lei potrebbe tornare in carcere dunque? Bah, speriamo di no. No, speriamo di no, certo. Speriamo di no per lei, speriamo di no speriamo per lei. Speriamo di no. Ma ha paura di tornare in carcere? No. Dimagrito 50 kg, eh? Sono dimagrito 50 kg. Quanti ne ha ripresi adesso? 4. 4? 4. Cioè adesso pesa? 72. È uscito con 68. 68, 72. No, sono uscito 68. Facciamo ordine, entrato con 118. Entrata con 118. Che non è il 118. No, sono uscito 68, sono dimagrito ancora 2 kg. Sì. E poi adesso, stamattina mi sono pesato, sono 72. Che farà da Don Mazzi? Bah, prima di tutto mi darò l'ortoterapia e curerò tutto l'orto del Don, rimetterò a posto la casetta dello zio Tom che gli hanno dato dal comune di farla, di metterla a posto, un ristorante, un centro dove si... d'accoglimento per i giovani, per fargli, sì. per fargli star bene. Cioè farà il muratore in pratica? No, io non ristrutturo, non è che faccio il muratore. Organizzerò degli eventi, dei contesti, porterò sponsorizzazioni, darò tutto quello che serve non solo all'Exus di Milano, sì. ma anche in tutto il mondo dove li ha. Ma quante ore lavorerà da Don Mazzi? Ma io credo 2-3 giorni alla settimana, un 6 ore al giorno. 6 ore al giorno? Sì. 6 ore al giorno. Vabbè, il 28 va in aula? Il 28 sono in aula per il processo Minetti, Mora e Fede. Minetti, per Mora la, Fede. Ma... per la prima volta vado in aula perché... fino adesso ero dentro in carcere, poi chiaro. Non stavo bene e vado a farmi vedere, che è giusto andare. Ma va a farsi vedere o c'è un interrogatorio? Non c'è nessun interrogatorio. Cioè si presenta in aula, fa la dichiarazione spontanea, no? Perché no, assolutamente. Io sono stato contumace finora, sì, perché non sì. stavo bene, vado a togliere la contumacia e da quel giorno sarò disponibile tutte le volte che ci sarà delle udienze a presenziare. Senta, lei lo sente Berlusconi? Io non lo sento da quel dì... Da quando è entrato in carcere? No, molto prima. Da molto diciamo, prima? Io sono... L'ultima volta che l'ho sentito era... Dunque... Gennaio, 7 gennaio 2011. Ma è ancora amico suo? Sì. Assolutamente sì, anche perché l'amicizia non si cancella con un colpo di spugna. Io sono amico del presidente dal 1986. Ma secondo lei si ricandida? Non faccio politica, non mi chieda queste no, cose. No, lei lo conosce bene, conosce la sensibilità di Berlusconi, è pronta a ricandidarsi. Berlusconi o no? È un uomo che ama il suo paese e se... Vabbè. Secondo me dovrebbe ricandidarsi. Secondo però, lei dovrebbe ricandidarsi? Sì, c'è bisogno ancora di Berlusconi? Assolutamente sì, anche in politica tanto. C'è bisogno di Berlusconi. Berlusconi è un numero uno, è un grande, è uno che sa fare il suo lavoro in tutto. Però c'ha 75 anni, basta con Berlusconi. Ma è un ragazzino. Come un ragazzino? È un ragazzino. Cioè di fisicamente? Ma cioè... di tutto, ma non solo di tutto. È un ragazzino, un uomo che anche se ha 75 anni non li sente, non li dimostra, lavora 22 ore al giorno, credo, perché per quel po' che lo conosco vabbè. Io dormiva pochissimo. Però scusi un attimo, la sua sensazione è che si ricandiderà o no? Oppure di che ha paura? C'è una cosa di cui ha paura secondo lei? Berlusconi? Non lo so cosa abbia paura, però... Cioè perché è frenato spero... da ricandidarsi? A parte le questioni politiche, c'è una cosa che lo frena Berlusconi? Non lo so. No, non lo so. Non teme di essere condannato, no? Per la questione, ma non ha fatto niente, Rubi. Perché dovrebbe essere condannato? Uno vabbè, deve questa essere... la sua... è sotto mai... processo, potrebbe essere condannato in primo ma grado. Ma è la verità, no. Lui non ha mai fatto niente. Lei ha mai portato escort a Berlusconi? Questa mai. È una domanda che le devo fare. Mai. Mai. Mai. Ma poi di queste cose del processo no, ma infatti Berlusconi non voglio parlare. Voglio parlare in aula, non qua, non è il luogo adatto. No, no, ma questo non c'è dubbio. Io sono qua per promuovere quello che farò di sociale. Senta un po', ma Berlusconi, a Berlusconi quanto piace il sesso? Lo deve chiedere a lei, non certo a me, io non sono mai andato con Berlusconi. No, ma lo so che lei non è mai andato con Berlusconi, però scusi, però lei ha frequentato quelle cene, quelle feste, io dico feste, tutto è legittimo. Uomo, cioè... È un uomo che ama le donne, un uomo molto, che ama moltissimo. Le donne, molto, moltissimo, e fa bene. Il sesso gli piace molto, Berlusconi. Credo di sì. No, crede, lo sa. Cioè, ma non lo posso sapere. A lei quanto piace il sesso? Mi piace abbastanza, bravo. Sì. La metteremo molto, alla prova. Anzi, molto, molto, molto. Con chi mi vuole mettere alla non prova? Non lo so, lo staremo impazzito. A vedere. Vuole mettere alla prova. Vabbè, 800 24 00 24, lei non mi vuole dire se si ricandida, secondo lei mi dica la sua sensazione se si ricandida o no. Allora, Berlusconi, lei... do un consiglio a Berlusconi, Dia si ricandidi per il paese, perché è una persona che il paese gli fa bene, un uomo come Berlusconi, basta che gli altri lo lasciano ma lavorare. Ma Renzi le piace? Molto. Luca Telesi è con noi, ciao Luca. Buonasera. Come stai, direttore di Pubblico? Fai una domanda all'Elemora, dai. Nell'ebbrezza di un buon risultato, il giornale fatto a mani nude. Vabbè, lascia, adesso non parliamo di Pubblico. Fai una domanda. No. Conosce Luca Telese? Lo conosco Luca bene. Telese. Sono di quelli che sono andato a trovarlo quando pesava 118 kg nel suo splendido ufficio. Facemmo un'auto-intervista di Lele Mora che intervistava Mora per Tetris. Ed è una pagina calda di televisione, perché lui era uno dei pochi e le domande se le faceva davvero. È vero, allora, è vero. Buonasera. Ti dava le risposte sbagliate magari, però per te, era impressionante come c'era già questo barlume di redenzione. Cos'è che ti sfruguglia? Io, come dire, ho una grande apertura di credito su Mora, perché non credo che sia un uomo capace di fingere, però devo esercitare un dubbio scettico sui convertiti. I convertiti carcerari sono una pagina della letteratura italiana, quindi... cioè non credi, non credi nella conversione, nella conversione, dico, diciamo, al sociale di Mora? Conversione di Mora, non so cosa, che lavoro andrà a fare da Don Mazzi Mora? Allora, caro Luca, qua si sbaglia. O ti sbagli, non so se ci troviamo del tuo o del lei. Diamoci del tuo. Allora, intanto grazie per la meravigliosa intervista che mi hai fatto nel mio ufficio. Devo dire che è un cult veramente, prima di tutto. Seconda cosa, uno che ha sofferto talmente tanto come me in 400 passaggioni di carcere, e ho visto delle cose che non erano carine, la sofferenza che si prova. Io vado a fare il sociale solo per aiutare le persone che non hanno né una voce, che non hanno un modo per... avere un organizza aiuto, con Don Mazzi, ma non io solo. Pensavo che stava là con la cazzuola a fare questa casa dello zio Tom. No, assolutamente, io con le mie conoscenze. Vabbè, non sarebbe male, però. Ma lo farei, se c'è da farlo lo faccio. Come a Opera ho fatto l'orto, ho trasformato una discarica in un orto meraviglioso e davo verdura a tutti, anche da Don Mazzi. Faremo questo. Sento una cosa, Renzi le piace? No, ma posso un attimo solo, un attimo Luca, un secondo, voglio capire se Renzi le piace. Renzi è un gran figo. Come, è molto sexy, dice lei. Sexissimo, non sexy. Sexissimo, sì. Ma veramente? Ma è uno dei che può piacere a tutte le donne d'Italia. Ma... ha questa faccia un po' sorniona, un po' strafigo e un po' che trasmette sensualità. Ma le ricorda Berlusconi un po' dei primi tempi? Ma va là, no, ma Renzi no. Un'altra cosa. Ma lo voterebbe lei, Renzi? Ma io non vado a votare, non posso più. Vabbè, però se potesse, voterebbe Renzi o no? Sì, lo voterei. Addirittura? Sì, ma guardi che io non ho mai votato Berlusconi. Mai? Pur essendo amico di Berlusconi, io non ho mai votato. Mai votato il PDL lei? Non ci credo. No, mai votato il PDL. E che ha votato? Un voto segreto. Lo so, però me lo dica a questo punto. Che ha votato? La destra, sono più a destra. Sono cose passate, non si ritorna indietro. Non si ritorna. Piscina. Allora, torniamo. Ce l'ha ancora la suoneria sul cellulare o no? Non c'ho più il cellulare, mio figlio me l'ha sequestrato. Ce l'ha la suoneria, non ce l'ha più. Basta la suoneria di Mussolini sul cellulare. Sono cambiato un pochino. Eccoci qui, 800 24 00 24. Caro Luca Telese, direttore di Pubblico, qui alla Zanzara questa sera, Lele Mora, manager televisivo di spettacolo. Ex. Capito, ex. Ma io posso chiedere, visto che Mora è una persona colta, e noi stiamo ponendo un problema alto, caro Cruciani. Ma qual è il problema? Io voglio sapere se gli piace Renzi. Diventa letterario, filosofico. E qual è sto problema letterario e filosofico? Dimmelo. Allora, il problema è la conversione. Oddio, questa conversione. Della conversione come istituto. Cioè, ma se uno ha vissuto una vita dissoluta, bella, verasinè, eccessiva, anche, come dire, con dei lati di oscurità. Come fa adesso? Telese, le spiego, perché? Le spiego. Io arrivo dalla campagna. Ti devi convincere. Io arrivo dalla campagna, vengo da una famiglia di contadini dove prima di sedersi a tavola bisognava fare la preghiera e il segno della croce. Alla domenica, se non si andava a messa, mio papà non ti faceva sedere a tavola e non ti dava la paghetta. Questa è quello che mi ha insegnato la mia famiglia. Io sono sempre stato cattolico, credente e ho degli obiettivi nella mia vita, avendo subito questa cosa che ho dovuto pagare, pagherò fino alla fine quello che è giusto fare, quello che la giustizia mi dà. E non è questione di conversione, io non ero cattolico, credente. Ma no, non dico conversione religiosa, però scusa un attimo. Stile di vita. Scusa un attimo. L'uomo del lusso. E adesso invece vuole cambiare vita e tu non ci credi. Champagne a litri. E tu non ci credi. Sono astemio. Qual è, la, qual è l'errore più grande che hai fatto? L'errore più grande che hai fatto? Apparire. Apparire. Apparire. Il rapporto con Corona è stato un errore? Corona sono altre cose. Corona è stato un grande amore prima, e con l'amore, quando tu sei innamorato, hai delle fette di prosciutto sugli occhi. Io non avevo le fette di prosciutto, avevo le fiorentine, che era diverso. Non ma eri vedevo... soggiogato da Corona? Non vedevo più in là del mio naso. Eri un po' soggiogato? Tantissimo. Tanto? Tantissimo. Ma quindi praticamente voglio capire, l'Ele Mora sta rinnegando tutto l'Ele Mora che abbiamo conosciuto fino a ieri, è io, così? Io non rinnego niente di quello che ho fatto, e ancora lo rifarei se potessi farlo. L'unica cosa che non rifarei più, apparire. Perché apparire ti porta dei conti. Io stavo bene quando nessuno mi conosceva, quando la gente in giro andava e sentivano che parlavano di Lele Mora, io ero lei, nessuno conosceva la mia faccia. Ma il rapporto è stato con Corona? Hai dato anche un sacco di soldi a Corona? Parecchi. Ma una casa, ho cercato di aiutarlo dove potevo, per farlo far star sereno. Ti sei felice. Pentito di questo? Sì, naturalmente. Mi dispiace, perché ho dato delle cose che potevo anche evitare di dare. Potrebbe anche... finire in carcere, lo sai, no? Ma a me dispiace, perché non auguro mai del male a nessuno. Nel carcere è una cosa... Lele, hai avuto dei gigolò? Sì. In che senso? Cioè, no, vuol dire se paghi delle persone no, per il sesso? No, assolutamente, ma assolutamente, ci mancherebbe. Il sesso non è una cosa che si fa a pagamento. Emilio Fede... Chi è Emilio Fede? Non conosci Fede? Non so più chi sia. Veramente? Sì, io... a un certo momento cancello tutto, resetto. Ma è vero che lui ha fatto la cresta poi alla fine? Questa storia chiariamola una volta per tutte, sui soldi che Berlusconi ti ha prestato, abbiamo, è vero o no? Abbiamo detto che queste sono cose che c'è un processo in corso e non si possono... Allora, io sono venuto da voi, voglio parlare di quello che farò, per carità, e queste cose le preferisco parlare in tribunale. La Minetti come la vedi sulla passerella? Ma la Minetti è una gran bella donna, poi nulla a togliere come bellezza, poi tutto il resto io non è che la conosco bene, la ma Minetti. La ingaggeresti? Se fossi soggente, le consiglieresti di fare la sfilata mentre è consigliere regionale? Assolutamente no. No, cioè no. O uno fa il consigliere regionale o sfida. Abbiamo già avuto in Parlamento Cicciolina e devo dire che con grande intelligenza ha saputo fare e gestire la sua persona, anche perché in quel periodo ha sospeso i suoi spettacoli erotici. Cioè meglio di Cicciolina della Minetti, dice, è stata più degna la Cicciolina della ma Minetti. Ma devo dire che la Cicciolina io la reputo una grande signora. Al contrario evidentemente della Minetti. No, la Minetti è un'altra cosa. Però che cos'è la Minetti? Tu la Minetti è una consigliera comunale. Regionale, sì. Regionale e fa la... La? La dentista, se non ricordo. Sì, l'igienista dentale. L'igienista dentale. Sì, ormai non la fa più l'igienista dentale. Eh? Ormai non la fa più l'igienista dentale. Ma può darsi magari un giorno ritorna a fare. Ma perché Berlusconi l'ha voluta in politica, secondo te? Ma lo deve chiedere a Berlusconi, non certo a me. Io non è che ho mai... Ha sbagliato a metterla nel listino bloccato? Sì, questo si può dire, su. Non lo so, io non faccio politica. Mi è stato chiesto tante volte di fare politica. Non ho mai voluto farla perché non è... Chi te l'ha chiesto? Più di una persona. Anche Berlusconi te l'ha chiesto? Sì. Sì, ti voleva candidare dove? Anni fa. E tu hai rifiutato. Lele, ma possiamo dire che eri il profeta dell'apparire e ora sei il convertito dello sparire? Allora, il mio lavoro era quello. Promuovere persone, prodotti, aziende e renderle grandi. E l'ho fatto con tantissime. Sì, il Lele Mora di ieri però avrebbe detto alla Minetti, brava, hai bucato, sei su tutti i giornali, hai sfondato. No, perché voglio dire... La Minetti fa altro nella vita, ha voluto darsi alla politica e deve seguire attentamente quello che è la politica. Consiglio alla Minetti da parte di Lele Mora, non stare sulla passerella, oppure scegli, dimettiti e fai... Bravissimo, questo che deve fare. Nulla togliere, che è una bella donna. Ma è vero che Beppe Grillo voleva venirti a trovare in carcere? Sì, è vero, mi hanno chiesto i miei avvocati perché avevano ricevuto da una telefonata da un amico che quello che mi ha scoperto per questo lavoro... che Gian Piero Malena, ha detto che io Beppe poi lo conosco da tanti anni, non è un giovane. È bravo secondo te? Ma è un grande comico. Ti auguri che abbia successo in politica o no? Io credo che ognuno deve fare il suo. Poi anche lui deve scegliere. Anche lui deve scegliere. Però scusa un attimo, ma ti voleva venire a trovare, perché non è venuto poi? Non so le motivazioni, anche perché per venire a però trovare... Però l'ha chiesto espressamente? Sì, l'ha chiesto tramite un amico di venire, poi non so le procedure che dovevano essere fatte, poi io sono uscito e meglio così. Zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara. Siamo qui, cari ascoltatori, e sono da solo, come sapete, sono da solo. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il duro addio delle Polveridi che scarica le responsabilità sul PDL, vittima di una faida interna, persone indegne, non mi interessa ricandidarmi. Napolitano, vergognosi gli scandali e la corruzione, si indaga anche sulle spese dell'Assemblea siciliana, in Lombardia Formigoni sotto pressione. Berlusconi, non siamo allo sbaraglio, va cambiata la legge sul finanziamento ai partiti, vertice del PDL nel Lazio, tutti colpevoli, nessuno sarà ricandidato. Scuola sempre più multietnica, rivedere i programmi di religione, dice il ministro Profumo, ancora proteste per il concorsone. Marchionne ai dipendenti, Fiat da sola non ce la fa, serve un aiuto da Italia e Europa, bisogna cambiare, tra poco l'incontro, governo sindacati. A Cagliari tafferugli tra polizia e lavoratori al COA, 4 feriti tra poliziotti e operai, una sindacalista denuncia, presa a calci sulla schiena. Arrestato per spaccio di cocaina, il direttore delle poste del Senato è ritenuto il braccio destro di un boss albanese. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Perché affonda. Vogliamo sentire Massimo D'Alema ieri sera a 8:30 trattare malissimo Matteo Renzi. Non è una novità questa, naturalmente, trattare male Renzi da parte di D'Alema, però addirittura se vince Renzi non c'è più il centrosinistra. Uno potrebbe anche dire, beh, meno male, c'è un altro centrosinistra, un altro tipo di centrosinistra, ma evidentemente per D'Alema è un disastro pazzesco. Qualcuno dice anche, beh, più parla D'Alema e più Renzi prende voti. E se dovesse vincere invece Renzi alle primarie, cosa che non è per nulla esclusa? Io temo che a quel punto non c'è più il centrosinistra, perché non ho capito poi con chi noi dovremmo governare il paese. O Renzi pensa di avere la maggioranza assoluta, ha detto che vuole allearsi con il popolo. Non sono frasi nuove, le abbiamo già sentite in Italia. Ecco, ma soltanto che poi è andata a finire malissimo. Il riferimento diretto è naturalmente a Berlusconi, il popolo, eccetera, eccetera. Non va bene una persona che litiga con tutti, ma l'abbiamo già detto. Renzi appartiene alla nomenclatura fin da piccolo, cioè dice anche lui ha fatto politica fin da piccolo, è insomma un piccolo colonnello. Cosa le piace di Matteo Renzi che la inserisce tra i rottamandi un giorno sì e un giorno no? Mi è sfuggito il giorno no, scusa. Oggi è anche un giorno sì, infatti. Ha detto che lei è imbullonato sulla sedia da 25 anni. Io sono uno dei pochi che la sua sedia l'ha messa in gioco seriamente. Mentre il giovane Renzi, anche lui è un appartenente alla nomenclatura fin da piccolo. Beh, che D'Alema abbia messo in... abbia messo in forse la sua candidatura o comunque abbia rischiato la sedia qualche volta, ho dei serissimi dubbi. Intanto scrivete su questa vicenda di Parenzo, scrivete che adesso ne parliamo, non vi preoccupate, intervenite all'800 24 0024. Dopo Santanchè versus Fiorito, Fiorito versus Tre Filetti, quello dei consumatori, no? Sentite. Se vuole dare un suo intervento lo dia. No, ma da una no, persona allora che ragione, non le do nessun insulta consiglio. Senza conoscere la persona. Non le do da lei non accetto nessun consiglio perché non so lei nemmeno non che titolo abbia lei per darmi consigli a me. È chiaro, a dire perché non so nemmeno chi sia lei. L'ho vista per la prima volta la scorsa settimana ripresenta. E nella mia vita non credo debba io prendere consigli da lei. Quindi vada a dare consigli a qualcun altro. Ma lei chi è? Dice a un certo punto Fiorito a Tre Filetti. Intanto un'ascoltatrice dice: non c'è battaglia, senza scontro non c'è vita, la zanzara muore, calmi, la battaglia arriva, non vi preoccupate, non muore nessuno per il momento. Io mi ricandido. Capito. Ma come si permette? Ma scusi, ma lei che fa nella vita? Chi la conosce? Che cos'è? Ma chi è lei? Ma chi è? Ma io sono una storia politica di 25 anni, ma lei sa che cresce mense, ma si informi meglio. Io sono stato il primo degli eletti per 3 elezioni consecutive. Io vengo eletto da quando ho 24 anni per questo partito. Lei non ha fatto niente nella vita. Lei si deve informare. Io sono stato il primo degli eletti in Italia. In Italia sono stato il primo degli eletti. Quindi non prendo lezioni da lei. Siamo al top, eh? È il numero uno assoluto nelle battaglie, il numero uno Fiorito, l'ho eletto mio idolo totale. Vorrei fare il punto del giorno con Fiorito. Il punto adesso glielo proporrò, il punto del giorno. Lei non sa un cazzo per parlare così, sempre con Tre Filetti. chiaro. Beh, ora ne parliamo. 27 anni. Ora ne parliamo. Sono due volte che sono il primo diretto alla regione. Aspetti, però. E diciamo che non ci avevo voglia monumenti. Ah, la prima campagna elettorale non fa più una cantina di casa. Fiorito. È chiaro. E lei non sa un cazzo per parlare. Spiegato. E da sempre ci ho provato. Ti ho inseguita dalla sera alla mattina, dal soggiorno alla cucina, dal giardino alla cantina. Ti ho inseguita. Era Fiorito che impazza e dice che alle prossime elezioni penso proprio di farcela. Risentiamolo. Vi fa incazzare questa cosa? Oggi Alfano ha detto che non sarà candidato naturalmente per il PDL. Alle prossime elezioni penso proprio di farcela. Fiorito, quanto vi fa incazzare questa cosa? Che l'uomo nero, l'uomo col gessato, l'uomo che ha gestito un sacco di quattrini nostri si vuole ricandidare. Quanto vi fa incazzare? A me per niente. Se andate alle elezioni lei si ripresenta? Perché non dovrei. Senta, questo lo dirà agli elettori, perché non io con gli elettori ho sempre avuto un grande rapporto, a differenza di qualcuno. E pensa di farcela? Penso proprio di sì. Beh, siamo al top, siamo al top. Siamo al top. Storace dice che è colpa anche di Bagnasco, vi rendete conto o no? Storace, è colpa anche di Bagnasco per quelle sue frasi che ha detto sulla corruzione, sulla moralità. Dunque le dimissioni della Polverini sono colpa anche di Bagnasco. Anche Bagnasco ha contribuito a far cadere la giunta regionale, probabilmente, attraverso un falso moralismo che non c'entrava nulla con questa storia. Qualche ascoltatore, 800240024, Renata da Verona. Buonasera, Renata. Buonasera, signor Cruciani. Sarò telegrafica. Sì. Allora, volevo dirle di Parenzo, lei si lamenta, sono solo. Finalmente io le rispondo. Sì. Che lei ritorna alle origini, quando era un piacere ad ascoltarla, perché sì, ultimamente Parenzo insomma ha debordato tra qualunquismo, vacuità delle sue proposte, insomma era insopportabile. Vacuità, mi piace questa cosa, vacuità, io non l'attribuisco sì a Parenzo, ma lei parla di vacuità, una sì, parola straordinaria, una volta vacuità. Si esprimeva in un colore, una volta in un altro colore, cioè non aveva un'idea ben precisa, perciò a seconda di come tirava il vento lui si esponeva . E questo per me era negativo. È contenta, sono contentissima di ascoltarla, sì, perché altrimenti mettevo in discussione di continuare l'ascolto della Zanzara, che mi piace. Va bene, Renata, grazie. E mi piace lei. No, voglio dire un'altra cosa. Che vuole dire? Che vuole dire? Velocissima. Sì. Lei ha anche messo in rilievo giustamente che Fiorito ha fatto un'audience strepitosa, ed è anche giusto che la faccia, perché la gente è abituata di solito a sentire i mostri, quelli assassini, gialli, ha capito? Mentre invece questo è un mostro politico, partitico. Sì, no, ma lei ha ragione. Le premesse dovrebbero pensare che questo è solo uno, e quanti ce ne sono di mimetizzati? Brava, bravissima Renata. I soldi li hanno presi tutti, i soldi eccessivi, abnormi, li hanno presi tutti senza fiatare, solo perché c'è stata una segnalazione alla Banca d'Italia e poi la Guardia di Finanza e poi le indagini. Adesso hanno cominciato a parlare di togliere questi finanziamenti. La Polverini se ne esce dicendo li ho cacciati io, e fino all'altro ieri dove stava? Dove stava? Cosa diceva sui soldi? Nulla. Pensi l'ipocrisia, signor Cruciani. Adesso non dicono che le hanno preso i soldi perché li hanno devoluti ad attività partitiche. Ma quali? Brava, non hanno neanche voluto darne una parte ai poveri disgraziati dell'Emilia Romagna. Ma non adesso questo non lo so. Comunque la cosa fondamentale è questa, che bisogna affamare la bestia, togliere il companatico, togliere tutto ai partiti, certo, cancellare i finanziamenti pubblici. Grazie, grazie Renata. L'abbraccio. Mauro da Brescia, buonasera. Mauro, mi sente o no? Matteo da Frosinone. Eccoci Cruciani, buonasera. Vada. Volevo farle i complimenti, finalmente non c'è più Parenzo. È veramente una bella notizia per un affezionato della Zanzara, perché sì, davvero. E io volevo farle una proposta per darle un ulteriore smacco a Parenzo. Si sì dovrebbe prendere come suo collaboratore, perché è vero che quando manca la battaglia poi si sente, il vichingo. Al posto di Parenzo io propongo il vichingo. Così. Beh, adesso il vichingo mi sembra francamente esagerato. Ho capito, però diciamo alla Zanzara l'utile idiota serve perché fa spettacolo. Sì, e lei dice dall'utile idiota, secondo lei, Parenzo all'utile idiota vichingo. Vichingo non regge botta, vichingo, su. Infatti dovrebbe farle un corso, qualcosa, questo è vero, perché in effetti Parenzo era in gamba, però il vichingo ha potenzialità, secondo me, quindi... io metterei il giudizio. Qualcuno scrive: ora Giuseppe Cruciani deve pagare gli alimenti a Parenzo e lasciargli anche la casa di Macherio. Grazie, andiamo a Milano. Roberto, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Vada. Ah, le telefono per la storia gay, le adozioni. Lei sta sbagliando tecnicamente quando le dicono che è un fatto naturale. Sì. In realtà la natura è una questione istintiva. Sì. Il 90% degli animali, i maschi arrivano, procreano e se ne vanno. Sì. Quindi il fatto di adottare da parte di omosessuali, sì, etero e quant'altro, che conta è l'allevamento del bambino. Non ho capito. Che conta è allevare i bambini bene. Poi sia la zia, lo zio, due uomini, due donne. L'unica cosa è non lasciarli negli orfanotrofi, che di solito sia orfanotrofi laici, sì, o religiosi, sì, che sono tutte donne, sì, quanti disastri hanno fatto. Quindi facciamo adottare da chi cavolo vuole. Eccoci qui, 19.35, sì, è vero, quello che ho detto prima è vero, è successo qualcosa, vediamo come va a finire, però io sono abbastanza coriaceo e credo di andare avanti su questa strada. Il direttore di pubblico Luca Telese, che una volta aveva confessato, vero caro Luca? Una volta avevi confessato che la Polverini ti piaceva, o sbaglio? Assolutamente sì, ricordo che si... Ti penti di questa cosa? No, non ci si pente se non si è sciocchi, cioè nel senso che in quel momento il centrosinistra fingeva di non trovare un candidato, rifiutava le primarie, cercava soluzioni di palazzo, e allora io dissi una cosa: se entro, era scritto ovviamente molto prima ancora, se entro pochi mesi non si trova, la politica del centrosinistra non trova una soluzione ragionevole e democratica del disagio che c'è, del degrado che c'è, allora uno potrebbe persino arrivare a pensare di votare la Polverini. Per me, voglio dire, venendo dalla mia storia... Ma poi alla fine chi hai votato? Alla fine chi hai votato? La Bonino hai votato alla fine? No, guarda, in quel caso non andai a votare perché penso il maggioritario ti impone delle scelte, quindi il centrodestra andava punito. Non sono riuscito, non ce l'ho fatta a votare centrodestra perché avevo visto proprio in quei giorni da cronista la gazzarra. Ah, delle liste, eccetera. Andai a seguire alla Piazza Farnese un'ululata delle liste e vidi già quel sottobosco romano molto... Senti Luca, ma quanta ipocrisia c'è in queste ore? Ma raccontati una cosa buffa. Sì, dimmi. Tornando da questa manifestazione, che io chiamai la manifestazione dei centuroni, guarda là che mi sono fatto rivedere il pezzo, quindi avevo azzeccato una cosa che poi mi ha spiegato Pietrangelo Buttafuoco, che ha intervistato pubblico, ha detto: hanno perso il fascismo e hanno recuperato il sandalismo, dice lui. Il sandalismo. La cultura della Hollywood di cartapesta, che è una criptocultura, pagana, classica. Di copertura di questo sentimento a braso, no? La cosa che mi ha colpito è che quella sera tornai con un ragazzo. Sì. Questo ragazzo mi diceva: magari la lista Polverini riuscisse a vincere, che io sto nel listino, sto nella lista, ce la posso fare. E questo ragazzo, sai chi era? Chi era? De Romanis. Beh, il mitico De Romanis. Era un ragazzo, credo, ho messo anche nel virgolettato, non so perché, diceva: io, noi siamo arrivati dal nulla. Ma tu ci credi la che... La caduta del PDL si apre delle corsie incredibili, forse siamo impreparati, però siamo proprio diversi. Beh. Essendo molto diversi, sono diventati molto uguali. Scusate, tu ci credi che... È un racconto, capisci? Ci non credi... voglio dire un giudizio liquidatorio, sono cose che ti colpiscono. Tu ci credi che quei soldi per la festa con i costumi romani siano stati messi da lui? Ma non è molto importante, lo sai qual è il punto fondamentale? È che se uno diventa consigliere regionale è come vincere la lotteria. Oggi diventare consigliere regionale, non solo nel Lazio propriamente, ma anche in altre regioni, è come vincere alla lotteria. E questo è lo scandalo. Lo scandalo è l'enorme flusso di denaro che tu hai a disposizione se diventi consigliere regionale, al di là del caso Fiorito, al di là del caso Pinco Pallo, eccetera. C'era un altro dato su cui sono contento di aver lavorato in quei giorni. Le campagne dei candidati, oggi su Pubblico ho raccontato la storia di Filiberto Zaratti, uno di SEL che spendeva lui per la campagna più di tutto SEL e si era fatto dare una commissione, quindi è un caso osceno, diciamo, e anche se giudiziariamente non penale. Le campagne dei candidati avevano dei costi che erano sconvolgenti, cioè si spendeva 1 milione di euro. Sì. Giuseppe, se non fosse vera la cosa che dici tu, cioè che uno non era convinto di rientrare, certo, ne abbiamo certo. parlato anche, ma perché? Pensiamo che sono altruisti, pensiamo che siamo no, tutti che sei convinto avere... di rientrare? Erano soldi, spendevi soldi, investivi soldi per raccogliere, facendo anche debiti magari, chi non era ricco, però sapevi che se venivi eletto avevi un sacco di soldi a disposizione per 5 anni. La Polverini, ti voglio fare sentire la Polverini, poi gli ascoltatori, perché la Polverini secondo me in queste ore è il massimo dell'ipocrisia, cioè io sono sicuro che non ha intascato un euro per andare a fare le cene eccetera eccetera, però per esempio in queste ore i manifesti che si vedono per Roma e che dice li ho cacciati io eccetera eccetera, qualcuno dice addirittura che sono abusivi i radicali, ma chi li ha pagati? Cioè, li paga la lista Polverini che prende finanziamenti pubblici. E poi è possibile che fino all'altro ieri, non ha mai detto una parola, forse pubblica, forse ci sono troppi soldi in giro, forse stanno spendendo troppi soldi, abbiamo dato troppi soldi, il Consiglio di Presidenza ha dato troppi soldi. Non c'è stata mai, per quieto vivere, perché questo è evidente, per quieto vivere, una parola da parte del Presidente della Regione. Questa è... o no, una responsabilità politica. È una responsabilità politica da parte del Presidente della Regione, anche se poi le cose non venivano decise formalmente né dalla Giunta, ma è una responsabilità politica, perché le cose si sanno quanti soldi ci sono a disposizione. Se non lo sai è peggio, come hai detto tu, se non lo sai è peggio. Se non lo sai è peggio, è molto peggio. La Polverini, sentiamo. E noi arriviamo qui puliti. Una Giunta che ha operato bene e che ha portato risultati importanti a questa regione, che purtroppo interrompe il suo cammino a causa di un consiglio regionale che non considero più degno di rappresentare una regione importante come il Lazio. Quindi questi signori li mando a casa io. Non voglio sceneggiate. Poi dice di essere in forma, eh? Una delle cose... Questa è Renata da parte di Barbara Lazzari, eh? Ho mangiato poco ma sono in forma. Forse questo se lo poteva risparmiare, ieri. Ho mangiato poco in questi giorni, però sono una donna, quindi questa cosa mi ha fatto recuperare una linea straordinaria e questo lo mettiamo tra le cose positive, perché mi dicono tutti quanto stai bene. Va bene, va bene. Allora, caro Luca, resta con noi, poi ci svelerai magari qualcosa del numero domani di Pubblico. 800 24 00 24. Eugenio, Filo, poi mi dirai, non mi hai ancora chiesto che fine ha fatto Parenzo, eh? Dimmelo. No, dopo te lo dico. Eugenio ci chiama da Milano ed è, credo, un ex senatore, se non sbaglio. Ha qualcosa da dire sulla vicenda D'Alema, D'Alema su Renzi, eccetera. Eugenio, buonasera. Buonasera, no, dottor Cruciani. Sì, io per la verità non volevo farle perdere tanto tempo, anche se sto aspettando da qualche minuto. Era solo per confermare la dichiarazione di D'Alema, perché io ne sono testimone. E devo dire che, tra l'altro, per me era una controparte. Alle elezioni del 2001 D'Alema fu candidato alla Camera del collegio di Gallipoli Casarano e non aveva, praticamente non rientrava nel listino, quindi non aveva nessun paracadute. E in quell'occasione, cioè, scusi, che anno? Il 2001, dunque stiamo parlando della vecchia legge elettorale. La vecchia legge elettorale, sì, esatto. Era nel collegio, in pratica lui aveva il collegio, esatto, sì. Ed era sicuro di non farcela. Perché? Tant'è vero che perché in quell'occasione non mi pare proprio, non me lo ricordo. Luca, te lo ricordi te questa cosa? No, io non ho motivo di dubitare. No, ma per carità, io sono presente personalmente, però mi faccio finire. Sì, no, prego. La questione. In quell'occasione mi chiese la cortesia, per tramite di una conoscenza, di aiutarlo in un paio di comuni dove lui era certo di non prendere i voti a sufficienza. Io ero di controparte e io, anziché aiutare persone che erano nel centrodestra, che avevo conosciuto bene, tipo Mantovano, riuscì a far votare per lui e nel mio paese, dove io avevo il 40% circa. Beh, lei ci sta dicendo, da esponente di Forza Italia era già senatore? Ero senatore uscente e avevo costituito un partito localistico che si chiamava Filograna per il Salento. Filograna per il Salento, tanto per rimanere nel campo del partito personale, no, scherzo, naturalmente. No, ma è la verità, non è tanto personale, era perché ritenevo che quell'area geografica fosse molto bisognosa di attenzione. Lei portò voti a D'Alema invece di portarli a PDL? Io feci a PDL, all'epoca andare, c'era Forza Italia. 3.000 voti di arrivarono da quella e come parte mai? Perché, perché ritenevo che una persona come D'Alema fosse una persona degna di andare al Parlamento e di, non poteva assentarsi perché secondo me l'esperienza aveva un suo peso. E come è riuscito a portare questi 2.000 voti? Come si fa tecnicamente, Telese? Ma è molto semplice, io avevo un'organizzazione di amici che lavoravano in tutti i 50 comuni del mio collegio elettorale del Senato e chiesi, nonostante molti fossero di centrodestra, di aiutare D'Alema perché ritenevo che fosse una persona valida. E gli ha portato 2.000 voti? Molto di più, molto credo, di almeno 3.000 credo. Da quello che ho, cioè grazie a lei, senatore di Forza Italia nel 2001, D'Alema, ex che era in bilico. Senatore di Forza Italia, un momento no. Ex all'epoca senatore di Forza Italia, D'Alema fu eletto. E lui lo sanno tutti questo, lo sanno a destra, lo sanno a sinistra. Cioè grazie a Filograna per il Salento, D'Alema restò diciamo alla Camera nel 2001. E infatti lui si era messo in gioco. Dimmi Luca, dimmi. C'è una domanda molto importante. Sì. Se uno vuole muovere i club degli amici della Pipa a sostegno di D'Alema, nessuno glielo impedisce, ma devo chiederle, lei andò da D'Alema o D'Alema da qualcuno, da qualche mediatore che di questo appoggio gli arrivava? Fui chiamato da un suo collaboratore che conosceva il mio autista. E la io, Torre? Signor La Torre per caso? La Torre, esatto. Cioè La Torre la chiamò e che le disse? Mi raggiunse in autostrada perché io facevo la spola spesso tra Milano e Lecce. È un incontro segreto in autostrada, una cosa pazzesca. È una cosa da pazzi. E allora? Ma no, no, è una cosa vera, è una cosa che succede. Ma perché vi siete visti in autostrada? Una persona ha fiducia in, un avversario, perché non dovrebbe aiutarlo? Vi siete visti in autostrada e che è successo? E mi chiese se potevo dare una mano in, in quel collegio, perché purtroppo D'Alema era sicuro di non prendere abbastanza voti nel comune dove io avevo. Io l'ho fatto. E lei l'ha fatto. E senza vergogna, perché le persone che si candidavano. Ma Berlusconi lo sapeva? Ma io non ero più con Berlusconi, ero uscito. Vabbè, ho capito, però comunque, insomma, lei portò voti che potenzialmente erano voti di centrodestra. Non avevo più rapporti con Berlusconi, io volevo abbandonare la politica, avevo deciso di fare qualcosa di utile, insomma. E la cosa utile era far restare D'Alema in Parlamento? Ma secondo me in quell'occasione era giusto farlo, bene. Sì. E lo fa. E probabilmente lo rifarei ancora, perché secondo me è una persona onesta. Poi non ho chiesto niente in cambio, non ho avuto niente in cambio, ma questo è un altro discorso. Bene, grazie Filograna, grazie di essere stato con noi. Ci sei Luca? Ci sei? Ma io sono. Adesso ti presento una persona. Scusa, facciamo questa cosa, dobbiamo verificarla, E vabbè, la verificheremo dopo. Se vuoi. L'immagine di quello che si dice da molto tempo di trasversalità. Di D'Alema, di D'Alema, No, ma comunque che nella politica esistono dei soccorsi neri, azzurri, rosa, non so più. Il come soccorso dire, a D'Alema nel 2001. Dopo ti do il numero di questa persona che ci ha chiamato. È con noi una persona però che conosci bene, 800 24 00 24, cari ascoltatori, so che ci chiamate in molti sulla vicenda Parenzo. Una persona che conosci molto bene, caro Luca. Donna Assunta Almirante. Buonasera. Ah, mancava la sua voce. Donna Assunta? Ciao, ciao. Telese. Buonasera. Salutatevi. Un abbraccio a Telese. Beh. Donna Assunta, la coscienza della destra italiana. Beh, abbraccio a te, un abbraccio a te che sei bravo. Allora, donna Assunta, ma che immagine è questa della Regione Lazio per lei che, insomma, no, è la storia della destra italiana? La storia è tutta sempre della destra italiana, la storia. No, ma ho capito. Della sinistra non ce n'è mai. No, adesso lasciamo perdere queste cose. Donna Assunta, però, vuol dire che... È lei che ha insinuato prima, no? No, ma che impressione le fa? Assunta, le devo fare una domanda ma io. Ma non poi. Mi fa nessuna impressione, guarda. Come ormai nessuna impressione? Siamo abituati a queste cosette. Ma no? La Polverini ha fatto bene a dimettersi o no? Ha fatto benissimo, si doveva dimettere prima. Prima addirittura. abbiamo solo il dispiacere di avere girato e lavorato tanto per farla votare. Addirittura si è pentita di farla votare? Eh sì, perché se sapevo che non aveva il temperamento di una donna audace che sta a capo di una regione e ha il dovere morale di controllare tutto, brava, non mi sarei buttata a capofitto non dormendo e girando i paesi vicino fino a Latina, guarda. Me lo ricordo, te lo ricordi tu Luca? Se lo ricorda. Come no, come no, Costorace. Non l'ha detto mai grazie. Non l'ha detto mai grazie? No. Beh. Senta, le chiedo una cosa, perché è nel dramma culturale che stanno vivendo oggi molti militanti che vengono dal movimento sociale. Ho intervistato, abbiamo intervistato... Guarda, che dramma non ne stiamo avendo. No, no, no, le dico perché ho intervistato... Perché il dramma lo sta avendo l'Italia, non noi. L'Italia. No, no, ma certo, ma le spiego perché anche... Ho intervistato Francone Fiorito, ho fatto intervistare sul Pubblico, che oggi dice... Io ero un militante del Fronte della Gioventù, ho tirato le monetine a Rafael, facevo le manifestazioni per le mani pulite. Allora gli ho detto, ma si rende conto che c'era un segretario di partito, Almirante, a cui si poteva dire tutto, ma girava con la 112, ecco, perché non aveva lussi, non aveva cose. Allora mi ha detto, sì, è vero, per noi allora era un esempio, ma chissà oggi che cosa farebbe. Come dire, è legato a un'epoca. Allora io vorrei che lei dicesse a questi militanti che... suo marito per scelta aveva questo stile di vita, ripeto, poi sull'ideologia si poteva dire tutto, oggi, ma Almirante... se ti guardi il giornale, c'è la grande fotografia, una pagina intera, grande, grande, prima e seconda, dove praticamente il giornale riporta i due uomini italiani, che sarebbe Indro Montanelli e Giorgio Almirante, nemici e amici per la pelle. Però adesso per la vicenda Fiorito Almirante non c'entra niente, per fortuna. Allora io voglio, non c'entra niente. Voglio capire da lei una cosa. Allora la cosa è questa. Da la me o da Telese? No, Telese mi sorregge. Donna Assunta, lei quanto è incazzata per questa vicenda? Quanto è incazzato? Quanto è incazzata lei per questa vicenda? Incazzata. Io dico, quanto è incazzata? Niente. No, quanto è incazzata? Che l'ha fatta arrabbiare? Che vuole? Io non mi arrabbio. Non mi arrabbio, solo mi mortifico, ma non mi arrabbio. Mi mortifico. Ma cosa l'ha fatta arrabbiare di più? Fiorito o la festa dei maiali? Che è veramente un degrado per tutti, hai capito? Ma l'immagine di Fiorito o la festa dei maiali l'ha fatta arrabbiare di più? Che mi ha fatto arrabbiare? Vedere la festa dei maiali, quelle immagini della festa con le teste di maiale, con i... Ma sa che io quella non l'ho vista, io non mi interesso, perché degli io, siccome ho allevato, sono stata un agricoltore, ho allevato anche i maiali, però i maiali si mangiano pure, e si mangiano bene a dicembre, quindi non era la festa, è la festa dei maiali che ci fa male. Lo so. Senta una cosa, ma la polverina, lei ha detto, non mi ha manco detto grazie, ho girato tutto là. No, dicono, non ci ha detto a nessuno grazie, perché doveva almeno per avere un senso di non solo di gratitudine a questi italiani, si doveva mettere a disposizione di questa regione che ne aveva tanto bisogno, invece di mettersi con questo signore di Anagno, di dove lui, non lo so. Sì, Anagni, sì, col federale. Ecco, col federale, ma federale, che cosa? Io non l'ho mai conosciuto. Vabbè, questo lo immagino. Scusi, non Assunta. Dunque, lei dice doveva controllare, non ha avuto le palle per bloccare questi ladri. Certamente, no, io non li chiamo manco ladri, questi ladruncoli. Mangiagalline, perché questi qui sono in uno stato di miseria mentale. Questa è la realtà. Perché uno che si mette a fare il coordinatore, oppure l'economo, l'economista, si doveva mettere in condizione di vedere in che condizione è in questo momento la regione, invece di andare di gente, che povera gente con 150-200 euro al mese, e loro vanno con la macchina blu, anche poca gente di poco conto. Proprio, cosa farebbe lei a Fiorito? Cosa farebbe lei a Fiorito? A Fiorito io lo manderei in esilio. In esilio, fuori dall'Italia. In esilio, per farlo anche dimagrire, non mangiare, così ha la possibilità di dimagrire. Ma ha visto quanto è grosso? 130 kg. Mangia tanto. Soldi, come vede, non gli bastavano, i suoi, e quindi mangiava con quelle della regione. E alla Polverini che cosa direbbe? Sparisci? No, alla Polverini direi che sono rammaricata e molto dispiaciuta per averla aiutata, e mi sento mortificata, perché ci avevo creduto di che una donna che magari si metterà nella condizione di dare una mano a questa povera regione che è ridotta in queste condizioni. Ma lei non è una di quelle che, se le prendono qualcosa dal suo portafoglio, se ne accorge? Anche i nipotini, se prendono 20 centesimi dal suo portafoglio. Ma me ne accorgo subito. Appunto. Io me ne accorgo e ripeto subito: chi è che ha toccato il mio portafoglio? E lei invece che ha fatto? E i ragazzi mi rispondono: nonna, sono stata io, ecco. Quindi mi meraviglio che lei non abbia saputo. Io non ci credo che non sapeva. Ma secondo lei era suo compito sapere, doveva no, sapere? Complice non sapere. Credo, complice no, non era credo. Suo compito, suo compito. Faceva finta di non sapere. Brava, faceva finta di non sapere. Anch'io però sono non convinto. Credo che lei abbia approfittato della situazione. No, lasciava godere, ecco. Lasciava godere, bellissimo, lasciava godere per quieto vivere, per non rompere le balle per ai consiglieri. Per quieto vivere. bene per non rompere le scatole, per avere tutti in armonia, al momento opportuno si fa una legge, si approva senza discussione qualsiasi. Ma e quindi si teneva gli amici dei nemici. Hai capito l'analisi lucida di Donna Assunta Almirante, mi Luca? Sembra, è incredibile. Però voglio chiedere a Donna Assunta, da dove, da dove ripartirebbe? Cioè, chi candiderebbe? Chi candiderebbe? Adesso, bravo, bravo. Chi candiderebbe oggi? Dobbiamo intanto, guarda. Si candidi lei. Quella mette la mano sul fuoco. Chi l'ha visti? Chi l'ha visti, dice lei. Dobbiamo mettere un avviso per dire chi l'ha visti. Non c'è chi nessuno metterebbe più la mano sul fuoco. Che è un degrado totale, mio caro. Vabbè, ma uno della destra, più ci sarà uno della destra laziale che per lei sarebbe in grado di guidare la regione. Gasparri, Storace, Gasparri? La Meloni. Niente, silenzio, Gasparri. Alla parola, fatemi fare silenzio. Alla parola Gasparri. Ah, è proprio un silenzio. No, no, no, no, no, no, no. Non è che faccio silenzio per Gasparri, faccio silenzio per tutto. Ah, per tutto. La non c'è uno di cui si fiderebbe. Chi l'ha visto? Dobbiamo mettere un avviso. Guardi, non c'è uno di cui si fiderebbe. Un avviso bisogna mettere. Chi l'ha visto? La Meloni, la Meloni, la Meloni. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Pubblicità, poi conclusione con Donna Assunta Mirante che si trova a Villa Medici in questo momento. A Donna Assunta, ma quanto gira lei, mitica? Quanto... giro come una trottola. Ma cosa pazzesca. Comunque sono stata a Montecatini molto festeggiata. Mi è andata meglio a me che al Storace. E che ha fatto a Montecatini, a Costorace? A Montecatini ho fatto la chiusura della festa tricolore. Ma ancora Costorace va in giro, comunque lei, basta. Comunque mancava il tricolore però, eh. No, ma sono andata da sola io. Storace è andato il giorno dopo. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazà. È la zanzara capricciosa, è la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazà, zazà. Eccoci qui, eccoci qui, sono le 20 in punto, 800 24 00 24, con Luca Telese, direttore di Pubblico, Donna Assunta Almirante. Mi dica la verità, Donna Assunta Almirante, ha voglia di votare a sinistra alle prossime elezioni regionali? Io, se non fanno la legge, non andrò a votare. No, alle elezioni regionali si vota con le preferenze, eccetera. Sì, con le preferenze. Bisogna vedere che c'è, se c'è qualcuno che non va, io preferisco non perdere tempo e non vado a votare. Però ormai la scelta per Zingaretti l'ha fatta a Roma, eh? No, io assolutamente no. Io sono andata a vedere un defilé. E voi altri che siete chiacchieroni, beh, noi siamo fatti, e siamo qui. Bugiardi, mi avete chiesto, non lei, ma altri mi hanno chiesto, Donna Assunta che fa qua? E basta. Luca? Io non ho dato preferenze a nessuno. Luca? Perché se non sono uomini che non mi vanno, non li voterò. Vabbè, Luca? Luca, eccolo qua. Ero curioso di capire se Donna Assunta lo candidiamo? Se ti candidi ti voto, va? Con Sell si candida, però con Vendola, le piace Vendola? Con Vendola, sì, si può candidare. Ma Vendola, credo che mamma Luca si candida mia, che notizie! No, Luca non si candida con Vendola. Non ha più fiducia nemmeno in Gasparri e nella Meloni. Ma Luca, perché non ci candidiamo io e te ci candidiamo. Io con lei, ma mi devi dire perché non si mi dica seriamente perché non si fida più di Storace, di Gasparri o che so. No, Storace non l'ha detto. No, non l'ha detto nessuno. Beh, ha detto nessuno, ha detto, ma pure ma Storace. Perché non si fida? Perché li considera tutti generazionalmente. Ma perché devo banditi? Dire una cosa che non c'è. Scusate. Io sono abituata a parlare di cose che ci sono. Quello il provvisorio. No, ma lei ha detto che non si fida di nessuno. Chi l'ha visto? Devo essere certa della persona che candideranno, se vale, e speriamo che non se la faccia la fine della Polverini, e se sbaglieremo da capo, non voterò. Ma la Polverini stasera torna da Floris, lo sa, no? Torna dove è nata la Polverini questa sera, da Floris. Dove è nata? Da Floris, da Ballarò, sì. A Ballarò. A Ballarò, mi fa ridere. Giuseppe, mi fa ridere, ma volevo chiederti quando ma la Polverini ma benedetta dice... donna che ci ha fatto fare tanti di quei viaggi a destra e a manca. Beh, amareggiatissimo. E poi non andava a vedere quanti soldi spendeva quel ciccione. Possibile che non si rendeva conto che questo aveva due macchine, tre macchine. Brava, che facevano le cene. Brava. Champagne a tutto spiano. Ma com'è possibile? Donna Assunta, lei ha detto, faccio la parte dell'avvocato del diavolo, che sapeva che era ricco di famiglia. Capito, la Polverini ha detto sono tutti ricchi, ma certo che è responsabile adesso. Ma certamente, possibile che io non so quello che succede a casa mia? No, ma lei ha ragione. Ma su questo. Che controllava i militanti se vedeva che io per esempio molto. Che sono un capo, sono stato un capo d'azienda. Sì. Io non è che mi fidavo solo del fattore o sì. del contabile. Andavo a vedere quanto hai pagato questo, fammi vedere che hai speso. E lo facevo la sera tardi, quando magari tutti dormivano. Adesso dice che i comportamenti morali c'erano anche prima del suo arrivo, la Polverini. Guardi, le faccio sentire la voce della Polverini, guardi, senta. Già prima del mio arrivo e che poi io ho cercato in qualche modo di ripristinare una sana norma che era quella che la Giunta e il suo presidente andassero a mangiare a mensa. Vabbè, qui parla della Giunta, perché lei distingue la Giunta dal Consiglio, ma che c'entra? Purtroppo la Giunta precedente non è che sia stato un esempio, no? Ma lei parla anche di una carta di credito a disposizione di Marrazzo, ma bisogna vedere, ormai vengono lanciate accuse di ogni tipo, ma naturalmente. Sì, ma adesso è diventata abitudine e tutto è diventato lecito. A parte che c'è la questione dei vitalizi degli assessori, che ha fatto passare anche lei, perché gli assessori hanno preso i vitalizi là, i vitalizi e secondo me non avevano diritto ai vitalizi. Cosa avrebbe detto Giorgio di tutto questo, ammirante? Comunque, guardi, mio marito, se uno legge sì. il processo alla Repubblica, trova sì. i discorsi di mio marito a proposito delle regioni e delle province. Sì, no, ma non ricordo. Lui non era favorevole. Vabbè, questo perché non è... diceva che nascono i parlamentini e con i parlamentini ci sono altri soldi che si spenderanno contro sì. gli italiani che già ne hanno pochi. Scusi un attimo, donna Assunta, per concludere, cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto ammirante a uno dei suoi militanti se avesse fatto una cosa del genere, me lo dica. Che poteva fare? Lo poteva cacciare e basta. Gli hanno tagliato, gli tagliava le mani, che faceva? No, no, beh, no, due schiaffi, era, due schiaffi. Non era arabo, no. Due schiaffi. Però lui odiava il sangue, quindi non era persona e lo metteva alla porta, ma lui se ne sarebbe accorto, perché ai suoi consiglieri comunali sì. quando venivano nominati o eletti, la prima cosa che gli diceva: "Voi dovete essere i carabinieri. Vabbè. Dovete rendervi conto di quello che si spende sia con i comuni, sia con le province, sia con le regioni." Donna Assunta, le faccio una domanda un po' impegnativa. Questa Dimmela. Destra, lei perché pensa che ci sia stata questa mutazione antropologica di una destra che aveva un valore forte nel 93, quello di non avere un inquisito? Cioè, che è successo? Sono impazziti? Sono stati corrotti? Hanno visto i soldi? Dall'ambizione, dalla vanità? Guarda, ce lo dica lei che deve ricordare che io ho fatto una battaglia terribile di cui il mio amico personale che mi aiutava e mi dava consigli era Indro Montanelli, che mi aveva messo a disposizione una delle sue segretarie che stava a casa quasi con me, per il semplice fatto che io ero contro quelli che da movimento sociale passavano e si facevano e si sono comprati Alleanza Nazionale, e da Alleanza Nazionale comprati. Sono passate fra le braccia di Berlusconi. Cioè, quindi ero contraria, perché il movimento sociale aveva beni da stare tranquillo, poteva benissimo aderire il mio amico, ex amico Gianfranco Fini, aderire praticamente. Cioè, tutto è nato da quella roba lì, lei dice, alla su fine. Su quello sono incominciate, è incominciato lo sfascio della gente di destra. Va bene, grazie donna Assunta, a presto. Un abbraccio. A voi. Si candidi insieme a coso, si candidi insieme a Telese, insieme... Ma perché io e lui ci candidiamo? Ma lei non io lo fare... la voto. Lei ha detto che si candida con Sell. Ma lei non lo farebbe, non lo farebbe il senatore a vita, la senatrice a vita, donna Assunta? No, io voglio andarmene tranquilla, sto bene dove sono, ho da lavorare. A senatrice ce ne sono già tante, dovremmo diminuirle a cacciarle, anzi eliminarle. Vogliamo pure la senatrice a vita, che siamo rincoglionite poi. Quindi non è possibile, guarda. Grazie. Abbiamo bisogno di gente sveglia che non dorme sui banchi. Dica alla Polverini una cosa, dice che vuole continuare a fare politica, dia un consiglio alla Polverini. Ma io le consiglio di tornare al sindacato che aveva all'UGE, come si chiama questo? UGL. L'ex Cisnal. Che torni lì a fare la sindacalista, che è meglio. Allora, l'ex ministro degli esteri Frattini, come sapete, l'altro giorno a Radio 24 che cosa ha detto a proposito della Minetti? Svegliandosi con grandissimo ritardo rispetto ai tempi normali della politica, svegliandosi qualche anno dopo che la candidatura della Minetti è stata una porcheria, una porcata, ha utilizzato una frase del genere. Se ce la mettiamo, se non c'è non fa niente, non c'è problema, voglio sentire la voce della Minetti. Una porcata a scoppio ritardato, lo ha detto il signor Frattini, giganteggia naturalmente rispetto a questo deserto, rispetto a persone che dicono tutto il contrario di tutto, rispetto a persone che cambiano idea, giganteggia, lo dico, lo voglio dire apertamente, giganteggia la figura della Minetti, la quale se ne fotte di quello che dice il segretario del suo partito, se ne fotte, e se ne fotte probabilmente anche di quello che ha detto Frattini, figuriamoci se si occupa di Frattini. Io penso che sia una porcheria l'averla candidata, che sia una porcheria che dinanzi al segretario politico Alfano, che la invita a dimettersi, lei non si dimette, non so che cosa io debba dirla di più. Beh, facile adesso, molto facile adesso, lo dico apertamente, molto molto facile adesso. Giganteggia, giganteggia, perché se ne strasbatte di queste cose, giganteggia la Minetti. Alfano aveva chiesto le sue dimissioni. Alfano? E allora glielo chiedo ad Alfano, ma perché viene a chiedere a me una cosa che ha detto qualcun altro? No, perché era... Io ho risposto con i fatti, perché non mi sono dimessa. Non avendo... Ah, io ho risposto con i fatti, non mi sono dimessa. Quindi non mi dimetto. Chi fa politica non si può mettere in costume? Scusa, cosa c'è di male a mettersi in costume da bagno? Vogliamo... Ah, perché le ragazze non si mettono in costume da bagno, non si mettono... Ah, perché al mare la gente non va in costume da bagno e perché chi fa politica non si può mettere in costume da bagno? Beh, non dovrebbe essere proprio così, però lei se ne strasbatte e io amo chi se ne strasbatte. Adoro chi se ne strasbatte. Su Renzi. Io ho detto Renzi prima perché comunque essendo un giovane mi sembrava doveroso, insomma, io sono a sostegno dei giovani. Bene, Marco da Roma, buonasera. Marco? Mi sente o no, Marco? Non mi sente, Enrico da Torino. Buonasera, dottor Cruciani. Vada. Due cose. La prima, finalmente senza Parenzo. La seconda... Una accoppiata vincente per la sua trasmissione, lei e Batman, assolutamente a costo zero. Cioè lei vuole Batman. Il punto del giorno, sì. Da parte di Fiorito, cada dia. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, adesso in coppia mi sembra esagerato, in coppia col Batman mi sembra esagerato. Beh, sarebbe esplosiva la cosa. Sarebbe il top, alla radio il Batman sì. Sarebbe il top. Sì, e non le ricorda la vicenda Fiorito per un certo verso... La vicenda di Craxi in Parlamento quando si alzò e disse alzi la mano colui che non ha intascato un soldo. Bah no, è molto diversa la vicenda del cinghialone, la vicenda di Craxi da questa vicenda qua di Fiorito, è molto molto diversa, anche se poi più o meno Fiorito dice le stesse cose, lo fanno tutti insieme, no? Dicono tutti la stessa cosa. Grazie Enrico, c'è Marco, non c'è o non c'è? Marco? Sì, buonasera. Vada. Prima di parlare della Polverini, io volevo esprimere il mio manifesto di giubilo per la scomparsa prematura, la ripartita di David Parenzo. Mica è morto, in questa No, beh, è sparito, però è già qualcosa, insomma, che in questa trasmissione era chiaramente un abusivo, visto che la trasmissione si chiama La Zanzara, lui non era né una zanzara, né una mosca, né una vespa, era camaleonte, nel senso che ogni volta... dava la leccata al potente di turno, quindi ecco, un abusivo che sparisce, la trasmissione ne guadagna sicuramente in credibilità. Detto questo, avete parlato della ipocrisia della Polverini, io forse sono un po' dentro alla vicenda, ma ieri la Polverini non ha affatto manifestato al segretario Alfano l'intenzione di dimettersi, perché fino all'ora di pranzo lei aveva intenzione di rimanere, tant'è che Alfano non ha comunicato le dimissioni, ma ha semplicemente sì. Chiesto la testa di Franco di Mario Abruzzese, che è presidente del Consiglio sì. Regionale, a lei ostile. E poi che è successo? Chiedendo di mettere il suo posto. Lei che sembra molto informato, che è successo? Ecco, è successo che poi ha parlato il cardinale Bagnasco, quindi ha ragione Storace. Assalto di, come si chiama quello del... Vabbè, adesso è scomparso per un attimo. Paolini, come si chiama? L'assaltatore TV, che stava assaltando il telecronista di Sky. Va bene, Marco, allora? Ha fatto capire ampiamente Bagnasco quale sarebbe stato l'ufficio, la decisione dell'ufficio politico che doveva esserci oggi, e cioè che i sei consiglieri dell'UDC si sarebbero ritirati, e dunque le parole di Bagnasco hanno tagliato la testa al toro. Renato Polverini ha capito che non avrebbe più avuto i numeri per la maggioranza, perché lei ci sta dicendo che praticamente il voto dell'UDC dipendeva alla fine dipeso dalle parole di Bagnasco? È di è di peso l'eroe di Bagnasco, perché l'UDC, come lei ben sa, è diviso in due fazioni, una un po' più di destra e una un po' più di sinistra, rappresentata da Buttiglione e Pezzotta, che erano quelli che chiedevano le dimissioni da Polverini, mentre invece Cesa e Casini chiedevano di andare avanti. Anche per altre questioni. Lo stesso Ciocchetti, che è uno dei più influenti. Alla fine ha deciso Bagnasco, dice lei. Bagnasco ha parlato, tutti hanno capito qual era la decisione che andava presa, punto. Ad quel punto la Polverini si è dimessa. Questa è l'ipocrisia. L'abbiamo mandata a casa noi, no, cara Polverini. Sei andata a casa tu e anche con qualche giorno di ritardo. Allora, intanto il capo di gabinetto, Zoroddu, contro il Corriere, sentite. Cazzo qui. Ma che pensi che ho paura di spaccarti la faccia? No. E sta di cazzo. No, ma io penso che tu c'hai paura. No. Non c'ho paura. Il capo di gabinetto della Polverini un po' nervoso. Traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. Strade in diretta. Buonasera, sulla 10 Genova a Ventimiglia si rallenta dopo un incidente tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova. Il traffico procede su unica corsia. Ci spostiamo a Roma, rallentamenti dopo un incidente che coinvolge un autobus sulla via del Corso, rallentamenti anche in piazza Venezia e via del Plebiscito. Sul raccordo anulare Coda Tratti dopo un incidente ora risolto tra la Roma Fiumicino e l'Appia in carreggiata esterna. Sull'Autosole si rallenta per lavori tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Attenzione infine alla pioggia tra Piemonte e Liguria e in Abruzzo lungo la 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Vicovaro, Mandela e Carsoglio-Ricola. Per ora è tutto, appuntamento tra mezz'ora. La Zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco, come una muchachita, baila col ritmo bueno, non le si no prendo sueno, non le importa mucho, si no prendo sueno, non le importa. Eccoci, 800 24 00 24. Giuseppe da Viterbo, buonasera. Dittatore, in che senso dittatore? Dittatore di questa trasmissione sicuramente, dittatore in che senso, scusi? Dittatore nel senso che non sopporta nessuno accanto a lei. No, veramente è esattamente il contrario. La maggior non riesce a sopportare Parenzo, che insomma neanche lui è un gigante, ma perlomeno la trasmissione era più equilibrata. Secondo, le voglio chiedere, sì. Senta, ma non pensa che la crisi economica, tutte queste cose siano frutto naturale, dico naturale, del capitalismo? Ma di che stiamo parlando? Viva il capitalismo! Ma di che? Perché uno ruba o non ruba, ma non c'entra niente. Non ci sono dei valori. Ma quando mai? È proprio che il capitalismo porta queste cose. In America c'è una massa di gente alla fame, infatti chi non trova lavoro va nelle agenzie di arruolamento, che se ci fossero anche in Italia sarebbero una buona cosa, così diminuirebbe la disoccupazione. Guardi Giuseppe, il capitalismo non c'entra assolutamente nulla. Il capitalismo non c'entra niente. Non è che il capitalismo prevede il fatto che si danno enormi quantità di denaro ai consiglieri regionali, ai gruppi regionali, come succede in Italia. Enormi quantità di denaro. Certamente non lo prevede il capitalismo. Il capitalismo anzi prevede, in teoria, il liberismo, eccetera, eccetera, controlli molto stringenti, a meno Stato, affamare la bestia. Grazie Giuseppe, 800 24 00 24. Ha avuto un incontro oggi nei bagni della Regione Lombardia con Nicole Minetti, una rottamatrice però non del Partito Democratico, ma del PDL, non so se la posso chiamare così, Elena Donazzan, che fa l'assessore in Veneto. Io innanzitutto una domanda, Donazzan, buonasera. Buonasera a voi, che buonasera a lei. Che ci faceva oggi in Lombardia lei, che è assessore in Veneto, scusi? Rete dei Patrioti. Ma che è la Rete dei Patrioti? La Rete dei Patrioti è fatta da giovani, bravi, politici. Io sono la più vecchia, 40 anni, classe 72, sono la vecchia del gruppo. Se lei è vecchia, tutta io... gente, però in questa bella Italia avremmo bisogno, come dire, che i giovani fossero veramente i 30 anni. E allora anni, lo dica chiaramente, che assessore lavoro in Veneto del PDL, via Berlusconi, il primo vecchio in assoluto, o no? Io lo dico a tutti, compresi e soprattutto i miei. Dunque, Berlusconi non si deve... Berlusconi, Dica. Berlusconi secondo lei non si deve ricandidare? Secondo me Berlusconi deve fare un passo a lato, ha tanta brava gente, tanti bravi politici, tante brave persone che possono rappresentare benissimo il centro della libertà. Gliel'ha detto? Glielo sto dicendo, beh, se non lo dico attraverso la vostra rete, oltre a dirlo dappertutto. No, ma gliel'ha detto prima, gliel'ha detto. Personalmente non ho avuto l'occasione, diciamo che lo dico tutte le volte che posso, quindi avendo qualche spazio, no, da assessore al lavoro e da giovane politico. Ma ne incontra pochi di giovani, secondo lei, Berlusconi, di giovani del PDL? Ne incontra pochi, si fida più dei suoi colonnelli? Secondo me, se Berlusconi incontrasse di più, ma non tanto giovani, sa, gli amministratori del territorio, forse avrebbe proprio la percezione di quanto la nostra gente, il nostro elettorato si è incazzato. E la rete dei patrioti, questo ha voluto dire oggi con la nostra battaglia, che è differenziamoci. Vi lascio un Renzi? Di qua ce ne sono mille. Differenziamoci. E oggi abbiamo dato un assaggio. Differenziamoci. Mamma mia, come lotta lei, Donazzane. Mi racconti questo incontro con la Minetti? Guardi, la cosa significativa, però mi pare di capire che lei piacerebbe molto la Minetti, piace anche a molti uomini che conosco in verità, ma l'incontro è avvenuto nei bagni delle signore, doveva essere un incontro discreto, ma probabilmente i bagni delle signore hanno tante signore che ascoltavano, e io semplicemente mi sono presentata perché io conosco lei. Ma perché lei in bagno? Perché non si è presentata da un'altra parte? Proprio in bagno doveva incontrarla? Sì, perché non volevo che questa notizia fosse di dominio pubblico. Beh, ahimè, invece... mai in Italia si tiene segreto ciò che dovrebbe essere. Invece. E allora? Tale. Allora, mi sono presentata perché lei conosce me, io conosco lei e lei non conosceva me. Mi sono presentata, mi sono qualificato, ho detto sono assessore regionale in Veneto. Sì. E lei si è presentata, mi ha detto col Minetti, ho detto... Figuriamoci, lei non la conosceva assolutamente, no? Cioè la Minetti non conosceva lei assolutamente. No, la Minetti non conosceva me, assolutamente. Io conto troppo poco, lei prima l'ha detto, persone molto più importanti di me hanno avuto come risposta un bel me ne frego, no, della Minetti. Quindi figuriamoci se può conoscere un assessore del Veneto che è la periferia del mondo per qualcuno. Ma lei si vergogna di avere una collega di partito come la Minetti? Ah sì, gliel'ho anche detto, ho detto Nicole Minetti, sei collega, bene, dimettiti, perché ci fai vergognare, ho detto esattamente questo. Le ho detto anche, hai un bel corpo, sei una bella donna, fai le passerelle, sei anche famosa per questo, fai questo, perché fare politica non è il tuo mestiere. E lei come ha risposto? Nicole Minetti mi ha risposto, almeno io non rubo. Io l'ho guardato e ho detto, beh, nemmeno io, ci mancherebbe altro, la politica è una cosa seria. E poi? A quel punto lì, lei, e ho capito esattamente perché a lei Cruciani piace la Minetti. Ma a me non piace la sorriso, Minetti. Come no, ha appena detto che le piacciono quelle che dicono che se ne fregano. Sì, un po' mi piace, no, attenzione. Le sto dicendo perché le sarebbe piaciuta. Sì, sì. Perché mi ha guardato con un bel sorriso sfrontato. Sì. Bello, proprio, sa la faccia da Schiaffi quella. Mi ha guardato con un sorriso sfrontato e mi ha detto, e quindi cosa mi chiedi? E io, di dimetterti. E lei mi ha risposto con un sorriso a 300 denti, bellissimo sorriso, non ci dormirò la notte. Allora vede... Beh, siamo al top, siamo al top. Però. Numero uno, roba da essere ripresa, perché secondo me era proprio una roba da donne questa. Però, scusi... Volgarotta, ma guardi, le posso dire... che io come dire, sono una che normalmente non usa le parolacce, non le ho usate neanche in questa occasione, le ho detto solo, guarda, io te lo sto chiedendo in bagno, fuori dalle telecamere, fuori dalla notorietà, però sappi che sono in tante le persone che te lo chiederanno di dimetterti. E me ne sono andata. Tante, cioè lei dice, dei nostri oppure gli italiani? In generale, perché sono una signora, vede, tornando indietro... Però non le piace, scusi un attimo, non le piace questa spavalderia, una persona che risponde in questo modo, che se ne fotte del segretario del suo partito che la vuole far dimettere, in parte se ne fotte anche di Berlusconi, perché non so... Secondo lei tra i due c'è un'intesa da questo punto di vista? Guardi, se ne fregasse solo del presidente e del segretario del partito, probabilmente avrebbe anche un mio in qualche modo un qualche sostegno, perché è sempre bello vedere qualcuno che dice e invece è solo paraculo e basta, diciamo. E invece purtroppo è irrispettoso nei confronti di un elettorato che ahimè ci sta veramente abbandonando perché è nauseato da tutto questo. E siccome 12 milioni, ricordavo oggi Vittorio Pesato che è il promotore della rete dei patrioti, io non ricordavo questo numero, ma 12 milioni di italiani hanno dato sostegno al Popolo della Libertà perché noi si andasse a fare la rivoluzione. Ma quanti voti vi ha fatto perdere secondo lei? Tanti. Non li posso considerare, ma sono tantissimi. Perché no, ma sa perché... No, no, senza quantificare, vi ha fatto perdere un sacco di voti. Una marea. Ma non il dettaglio della Minetti. Dunque, Minetti è un dettaglio. È avere pervicacemente ignorato tutti questi piccoli e poi diventati grandissimi segnali di... malcostume, di poco rispetto, di poca coerenza, perché non puoi andare a dire togliamo l'IMU e poi lo votiamo, perché poi il mio io mi occupo di lavoro in Veneto, sì, la mia regione, che è sempre stata straordinariamente produttiva, capace di riqualificarsi, rideterminarsi, di trovare posti di lavoro, adesso soffre. E io ho le imprese che hanno la Carinzia, ecco, ma il primo responsabile chi è? Berlusconi di questo? Il primo responsabile sono io, Elena Donazzan, che non ho detto quella volta no, che non l'ho detto abbastanza forte, che non ho detto che è anche colpa mia se il mio partito non è abbastanza degno, ed è per questo che noi vogliamo la raccolta differenziata nel Popolo della Libertà. No, d'accordo, la raccolta differenziata da chi parte allora? Parte dalla rete noi. No, ma da chi parte? Chi è che differenziamo subito? Chi è che rottamiamo? Chi è che mettiamo nel... La prima gliel'ho suggerita. La prima la mia. Sarà triste, la prima l'abbiamo fatta. La prima l'abbiamo... Non è che sono triste, è che a me la spavalderia piace, l'arroganza piace pure. Cioè, nel senso, una persona che alla fine viene attaccata da tutti, perché adesso è uno dei grandi mostri. A me no? piace il coraggio, guardi, è un'altra cosa, sai. Vabbè, il coraggio e la coerenza sono coraggio. Un'altra cosa. Uno può anche avere. Però mi dica la verità, Berlusconi l'ha candidata perché ci andava a letto. Lo dica chiaramente, lo dica esplicitamente. Ma no, assolutamente. E perché l'ha candidata questo, allora? Ma questo non me lo sentirà mai dire, perché non lo so e non lo penso. E che pensa allora? Perché l'ha candidata? Penso che sia l'inopportunità, penso di vedere queste, non sopporto più queste donne che fanno carriere varie e in politica peggio. Ma perché è andata in politica alla fine? Perché era amica intima di Berlusconi? Ma che ne so, ma glielo chiede a Berlusconi, Cruciani, ma cosa ne so? Ma lo dicono tutti, lo sanno tutti. Ma lo so. Dalle telefonate era chiaro, su. Sarà che sono bacchettona di mio, non lo so. Ma lei non è bacchettona, su. Non parlo di questi argomenti. A 40 anni come fai a essere bacchettona? Caro Cruciani, chieda a quelli che mi conoscono e dica, la Donazzan com'è? Bacchettona. Bacchettona. Risposta. Quanti fidanzati ha avuto a 40 anni lei? Vorrei tenermene uno che amo tanto da 8 anni. Questo beh, allora si è abbastanza bacchettona, sì. Bravo. In 8 anni un solo fidanzato, negli ultimi 8 anni. Hai capito? Siamo al bacchettonismo. No, sto malcostume in politica non è mica sempre detto. Guardi che si fa la differenza. Noi facciamo la differenza. Io voglio fare la differenza. Ma questa differenza, chi ci mettiamo nella parte cattiva, diciamo, in questa raccolta differenziata? Chi ci mettiamo? Allora, innanzitutto ci mettiamo la Russa e Gasparri. La Russa e Gasparri. Fiorito, vabbè, no. Fiorito è scontato. Su, adesso sono tutti contro Fiorito. Certo, io ci metto invece dalla parte buona. Ci metto Carlo Fidanza, eurodeputato, 37 anni. Vittorio Presato, consigliere regionale, 37 Saranno anni. Saranno amici suoi questi. No, sono eletti nel Popolo della Libertà. Lo so, ma lo conosco molto bene, li conosco molto bene. A preferenze, Cruciani, a preferenze. Ma lo so, ma io le preferenze le odio. Io no, io l'ultima volta ho preso 22.131 persone che hanno scritto un cognome lungo articolato con 2 Z e un N finale. Sì. Che è tosto da scrivere, non mi chiamo mica Russo. Ci sono anche altre persone che hanno preso 100.000 voti alle europee, eppure non ho paragato da dirla, signora Matera, per esempio. Ma la signora Matera ha preso le preferenze. Allora, conosce? Conosce? Sì. Sì. Diamo un discrimine. Possiamo come l'ha presa questi 100.000 voti? Vabbè, per scrivere tante volte così un nome, voglio dire, almeno deve essere presente, almeno deve essere nota. Dopodiché è vero che non esiste un sistema perfetto, perché le regole non possono mai valere in assoluto, i principi valgono in assoluto, poi ci sono le persone che in malafede o in buona fede, con cattiva coscienza o con buona coscienza, con coerenza o incoerenza si comportano. Io credo che la differenza le facciano le persone, la faccia. Perché Berlusconi non riesce, secondo lei Berlusconi vuole mandarla via la Minetti oppure no? Me lo dica sinceramente, lei mi sta sputtanando in diretta. Io non ho parlato con Berlusconi. Non ma ho capito, ma secondo lei perché se uno vuole, a parte che aveva detto che si dimetteva e poi non si è più dimessa, ha fatto trapelare che si sarebbe dimessa e poi invece non si è più dimessa. Da noi Feltri ha fatto una figuraccia in diretta dicendo Berlusconi mi aveva detto esplicitamente che si dimetteva lunedì, quel lunedì là e poi non si è più dimessa. Per cui perché non riesce a farla dimettere? Perché un po' la tiene, lei lo perché tiene. Perché vuol dire che non conta niente se non riesce a farsi. Non conta più niente. Non conta più niente. Non conta. Oggi un suo collega mi ha detto, ma Alfano, il segretario, ha detto che doveva dimettersi. Bene, io gliel'ho chiesto sommessamente, ovviamente non sono segretario, non conto niente. Sì. Minetti giustamente oggi in una sua elegante risposta ha detto, ma chi è? Ma chi? Non importa. Infatti io mi sono presentata perché sapevo che lei non mi conosceva. Certo. Io sono una persona educata, mi presento. Sì. Ma non conto assolutamente nulla, Cruciani. Mettiamocelo in testa, io me la sono messo in testa. Vabbè, lei ha 20.000 preferenze nel Veneto, qualcosa conterà però, no? Ma no, si vede che no, perché la Minetti oggi mi ha detto che lei non mi ha preso in giro, mi ha detto non ci dormirò la notte per questa tua richiesta di dimissioni. Figuriamoci se glielo chiede uno più importante di me. Tu sei come una piccola zanzara. sono qui, la Zanzara vive e lotta insieme a voi. Vincenzo da Milano, 800 24 00 24. Vincenzo, buonasera. Cruciani, dottor Cruciani, buonasera. Senta, volevo chiedergli una cosa, ma lei non è che difende la Minetti perché gli sotto sotto gli piace, ci vorrebbe uscire? Perché secondo me... Non ho bisogno di uscire con la Minetti, per fortuna. Perché secondo me tutto questo coraggio, la Minetti, io non ce lo vedo, nel senso che... Ma io non ho mai parlato di coraggio. No, nel senso di, di arroganza. Beh, che abbia di le palle, che abbia le palle non c'è dubbio. Ma questo è quello che ci vogliono far vedere, ma secondo lei questa qua gli mancano 2 mesi per finire... Ma no, ma che gliene frega il vitalizio? Ma, sì, che... infatti, ma come che gliene frega? Ma vitalizio, 1.000 euro al mese, su, 1.000 euro al mese, dai, su, per una come la Minetti, cosa vuoi che siano 1.000 euro al mese? Una casa via Monte Napoleone, di che parliamo, dai? No, beh, quanti sono di vitalizio? Non credo che siano... Sì, per una legislatura sono 1.000 euro, mica sono... Mica sono tanti. Se uno fa solamente una legislatura in Lombardia, mi sembra che siano 1.000 euro, mi sembra, No, no, sono di più. No, 1.000 euro. Allora? E niente, penso che sia tutto un accordo per tirare alla lunga la minestra. Non penso che sia Alfano che Berlusconi, sì, se volevano defenestrarla l'avrebbero già fatto, voglio dire. Cioè, non c'hanno di questi problemi. Berlusconi dice e forse molti si mettono a ridere, che bisogna moralizzare la politica, che quello che è successo nel Lazio è un esempio di degenerazione della politica, cosa incredibile, abrogare il sistema di finanziamento dei partiti, dice Berlusconi adesso. Tutti adesso dicono che bisogna abrogare il sistema di finanziamento dei partiti. Anche Alfano, lo dicono tutti adesso. Prima però se prendevano tutti i soldi. E con noi il mitico, intramontabile, lo vedo scomparso dai teleschermi, ma stasera tornerà sulla 7. Fulvio Abbate, buonasera. Buonasera Cruciani, eccomi qua. Che succede? Domani sera tornerò. Domani, sì, domani, mercoledì, scusami. Domani, sì, sì. Ti sei vestito di tutto punto? Che hai fatto? Ti sei vestito, ti vestirai anzi in questo programma? Mi vestirò da ufficiale garibaldino. Sì. Che farai, un monologo? Farò un monologo, sì, dove spiegherò che bisogna fare scena muta, che non è necessario avere più un'opinione. Ad esempio, tu parlavi poc'anzi col gentile ascoltatore della Minetti. Sì. Io non ho più un'opinione sulla signora Minetti, insomma. Ma come si fa ormai ad avere un'opinione sulla signora Minetti? Impossibile, no? Ma su niente, ma anche su Batman non riesco, sì, ad avere un'opinione. Allora, per me sono dei numeri uno tutti e due. Innanzitutto Batman fa aumentare gli ascolti di ogni trasmissione. No, Batman ha fatto la sua porca figura. Ieri l'ho visto insomma, non mi ricordo qual è. Quinta colonna su Rete 4. Quinta colonna, ecco. E meglio di Panatta o di Nastase, ribatteva ogni palla avvelenata che gli veniva mandata. Quindi tu non potrai mai sapere quanto mentisse, però era credibile. Assolutamente, ribatteva colpo su colpo come un leone. La Minetti, sì, poi, sì, la Minetti, una che manda a quel paese il proprio segretario, che gli dice ti devi dimettere, quella lo manda a quel paese, forse appoggiata da qualcun altro, in questo caso, comunque sorretta da qualcun altro, non lo sappiamo, comunque insomma, a me fa simpatia, che vi devo dire? A me non mi sta antipatico, non è che dico che stronza la Minetti, oddio, adesso sfila, dunque si deve dimettere dal Consiglio regionale. E poi quelli che lo dicono adesso, dove erano 2 anni fa? Dove erano quelli del PDL che dicono una porcheria la candidatura? Dove erano 2 anni fa, quando tutto era abbastanza chiaro? Dove erano? Non eravamo noi a doverlo dire. No, però, scusami Giuseppe, però questo discorso non vale, perché ormai siamo al cupio di soldi, quindi ogni considerazione è lecita, diciamocelo francamente. Non, è anche comprensibile che Alfano abbia detto quelle parole molto severe nei confronti della compagna di partito, della collega Minetti, diciamo così. A questo punto, come si dice in Sicilia, chi afferra un turco è suo. Com'è in Sicilia? Com'è che si dice? Chi afferra un turco è suo, cioè chi riesce a impossessarsi di un turco diventa di sua proprietà. A questo punto non può avvenire veramente di tutto, insomma. Allora, Giovanni da Vicenza, 800 24 00 24, tra poco un ospite, un ospite molto molto particolare che oggi ha messo un'inserzione sulla cronaca di Milano del Corriere della Sera, sulle pagine del Corriere della Sera, un'inserzione a pagina 9 della cronaca di Milano, ma insomma voi che non siete di Milano, moltissimi di voi che ci ascoltano che non siete di Milano non lo potete sapere, ma ve la reciterò questa pubblicità, prima di chiamare in causa la signora. Giovanni. Pronto, ecco, io volevo intervenire sul discorso di Renzi, perché adesso si parla tanto di onestà, si parla tanto di fare le cose per bene, ma seguiamo le regole, cioè le regole vanno seguite, perché se le regole sono sbagliate si cambiano, e noi abbiamo un Renzi che è scritto al PD, che è scritto sullo statuto del PD che non può presentarsi alle primarie. Ma non è vero, ma quelle sono stupidaggini. Dopo questo qui i fiorori sono la stessa cosa. Le regole Fiorito. Servono per i gonzi, e che cavolo sono? Ma insomma, le regole sono qualcosa di importante. Senza regole non andiamo nemmeno per strada. Lei deve tenere la destra, non può andare a sinistra, altrimenti farà un casino tremendo. E secondo me bisogna che funzioni così. Va bene, grazie, grazie. Abbiamo con noi la più famosa trans d'Italia, Efe Ball, scrittrice. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Mi fai intimidire così? No, che intimidire. Metti disagio. Quanti anni hai, te lo posso chiedere? No, assolutamente. Passiamo alla seconda domanda. Ma come non ti posso chiedere che anni hai? Ancora con questa... No, ancora con questa... dire? Ma in questa foto qui sul Corriere della Sera sembri giovanissima. No, è un po' di della sera, purtroppo hanno messo allora quelle, le foto con capelli corti sono io 3 anni fa. No, qui c'è la foto con i capelli lunghi qua. Sì, quello sono io recentemente, 2 mesi fa, dove avevo fatto questa foto anche per acquistare orologi di comune, per mettere questo mio pubblico del libro. Sì, sono giovane, però comunque non vuole dire la mia età. Non la dire. Non sprechiamo il nostro tempo per parlare della mia età. Un giorno sognavo di essere una bella donna, diventare famosa ed essere riconosciuta. Oggi penso di aver realizzato tutto questo. Ora ho un altro desiderio: aiutare i paesi in cui vivo e che amo, l'Italia. Questo sembra un passaggio dalla Berlusconi. Sogno di poter pagare le tasse. E io dico, poi c'è la pubblicità al libro che si chiama Efe, va bene, è uscito qualche tempo fa per Mondadori. Beh, insomma, una che dice voglio pagare le tasse, perché la signora Efe Ball, caro Abate, ha guadagnato un sacco di quattrini facendo la prostituta, diciamola sì, tutta. Sì, però io volevo andare dalla signora, quindi avrei chiesto un appuntamento pubblicamente. Però la richiesta di pagare le tasse è quanto di più anerotico potesse dire la signora Efe. Cioè contro qualsiasi tentazione, dici tu. Diciamo distrugge qualsiasi possibile erezione. Addirittura, addirittura. Sì, secondo me è un errore clamoroso. Stiamo andando a un Italia terribile, è scandaloso ciò che ha detto. Perché è scandaloso? Fulvio Abate è scandaloso di suo, giustamente. Io voglio pagare le tasse per avere un po' più di dignità, normalità, per avere un senso un po' più nella mia vita. È un signore che esce e dice: ah, che brutta cosa che dice questa signora, mi fa... Sì. Mi fa mosciare quelle cose lì, insomma. Adesso vabbè, abbiamo capito. No, ma Abate dice, vuole dire forse, Fulvio, scusami se ti interpreto, no, che se uno va dalla signora Efe Ball per farsi una sana trombata, diciamo, no? Sì, ma guardi, se sceglie la signora Efe Ball, se sceglie la signora Efe Ball, non è perché se sa che poi deve pagare le cose, lo scontrino, le cose così, forse no, Fulvio, cade tutta la... No, diciamo che vuoi dire tu? Che volevi dire? Voglio dire, noi dalla signora Efe ci aspettiamo altre parole, insomma, non parole che somigliano a un discorso, diciamo, sulla questione morale. La signora Efe deve essere una sorta di divinità per noi, una divinità erotica. Che ci frega della questione erotica? Ma che ci frega? Lei è già una divinità. Ma quanti soldi ha guadagnato lei in tutti questi anni, signora Efe? Io ho fatto questa pubblicità di oggi per poter pagare le tasse, per non parlare del con chi sono andata a letto, quanti soldi ho fatto. Ho capito, io le chiedo. E che tipo di clienti vengono adesso? Come i politici. Una domanda molto monotone. Ho capito, ma come i politici lei deve. Oggi in Italia, no, aspetti un attimo, lei come i politici. Ho capito, ma lei come politici mi vuole dire quale domande devo fare e quale non devo fare? Scusi, signora Efe Ball, abbia pazienza. Basta che non si mette del mio lavoro e della mia vita. Ma io non ho detto nulla, io le sto chiedendo quanti soldi ha guadagnato finora. Non è un delitto. Ma perché devo dire lei quanti soldi ho guadagnato? Va bene, allora non me lo dica. Se io voglio pagare le tasse, è la cosa più dignitosa che voglio fare all'Italia, che come hanno scritto oggi sul Corriere.it. Ma questo sono d'accordo con lei. Portare soldi via dall'Italia. Io sono una umile trans che fa prostituta da 10 anni. Da quanto lo fa questo mestiere? Pagare le tasse. Da quanto lo fa, diciamo? Da quanto è che fa la prostituta? Da 10 anni. Ma si può dire una cifra che ha guadagnato in questi 10 anni? Così, per essere, io sono a favore di quello che lei dice, di pagare le tasse, al contrario di quello che dice Abate. Secondo me lei fa benissimo a fare questa secondo richiesta. Secondo me lei non riesce ancora a capire ciò che sta succedendo, ciò che è successo. Dove non riesco a capire? Sul Corriere. Ma non è successo io nulla. Ripeto, io da un umile trans di sì. Milano, che sia una divinità erotica e non sia una divinità erotica, quella sì. Che sia. Ho dovuto parlare diverse volte con il Corriere della Sera, li ho convinto perché di non lo volevano fare? Pubblicità. Non lo no, volevano perché fare. Io sono quelle che sono. Loro avevano tutte le ragioni di dirmi, se quando cliccano il tuo nome su internet esce tutto di più. Quindi dobbiamo un attimino avere l'approvazione di questa pubblicità. È giusto, hanno fatto i loro doveri, è uscito su un giornale più prestigioso di Lombardia. Sì. Una pubblicità mia, pagata da parte mia, con i soldi quanto che l'ha pagata? Questo lavoro, quanto l'ha pagata questa pubblicità? Può chiedere al Corriere della Sera. Mamma mia, ma che è? Ma mica è il segreto di Fatima. No, allora... Se le domande sono serie, perciò che ho fatto una cosa più seria ma del mondo, ho in capito. Questo momento io rispondo giusto. Abate, si è trasformata la signora Efeba. Con quante persone ho nel letto non rispondo. E vabbè, non rispondo, a parte che lei l'ha già fatto. Ironia, noi ci aspettiamo oltre alle grazie straordinarie della signora, io ricordo anche delle interviste qualche anno fa. Esatto, sì. Straordinarie, sì. Ci aspettiamo anche un po' di ironia, altrimenti... ma ironia costretti. Potrei anche avercela, però ma non lo sta dimostrando adesso parlare con quanti clienti sono andate letto, ma non ho detto questo guadagno. Io non le ho fatto ma non le ho chiesto con quanti clienti è andata. Allora, i soldi che guadagno non perché ho delle società, guadagno perché prima di tutto sono una persona credo abbastanza intelligente, oggi è un'altra prova di quelle che ce l'ho nella testa. Lei non penso che guadagni per l'intelligenza, abbia pazienza. No, guadagno anche per l'intelligenza, anche perché non è una vita molto facile che faccio, potevo finire con la droga, potevo finire con qualche guaio, per carità, visto che oggi come oggi in Italia ogni giorno sentiamo dei guai, dei scandali. Però scusi, enormi. Signora Efebal, lei non mi faccia Lorenzo Cesa qui, cioè non è che siamo a, perché sennò è tutto finito. Sono troppo seria, mi dispiace. No, io non troppo sono seria. Che lei è abituata a vedere sul marciapiede. No, ma io non sono abituata a vedere. Ma no, riesco a parlare, siccome vado anche in televisione ma io non... l'opinionista. Ma scusi, ma io non è che le ho chiesto niente di particolare, io le ho chiesto quanti soldi ha guadagnato in 10 anni, non mi sembra una domanda offensiva. Abbastanza. È offensiva, va bene. Risposta va bene. È una domanda abbastanza, che ne so, 200.000, 300.000, 1 milione di euro, 2 milioni di euro, 3 milioni di euro. Faccio un'ironia bellissima. Quando a Valeria Marini vanno e chiedono: "Ma lei è fidanzata?" Lei ride. Non lo so, dice così, no? Allora il giornalista impazzisce, dice: "Ma cosa vuol dire non lo so? Lei è fidanzata o non è fidanzata? C'ho queste due tette, un culone incredibile, è fidanzata o non è fidanzata?" E lei ride, comunque cammina, no? E lo stesso cosa faccio io adesso. Ma perché deve copiare Valeria? Quando mi chiede perché deve copiare Valeria guadagno, Marini? Faccio non lo so. Eccoci qui, allora però urge una domanda, caro Abate, se non ci vuole dire dettaglio cose, ma noi non eravamo granché interessati ai dettagli erotici della vita professionale della signorina Efebal, che ha fatto questa inserzione sul Corriere della Sera per poter dire sogno di poter pagare le tasse. Io sono d'accordo con lei, al contrario di quello che dici tu, perché io sono per la legalizzazione della prostituzione, assolutamente, uno paga le tasse, è controllato anche dal punto di vista sanitario, eccetera, eccetera, una situazione quasi alla tedesca. Ecco, io però una domanda appare subito, cioè, ma questa inserzione, cosa le ricorda, signora Efebal? Cioè, a che cosa è uguale? Che cosa è uguale e cosa vorrebbe dire? Cioè, no? Che, qual è il suo obiettivo, il suo vero obiettivo, qual è? Il mio vero obiettivo è di farmi sentire, sinceramente avrei aspettato molto di più di essere ospitata in un canale di radio, ma molto di più, perché ripeto, una trans normalissima che è nata in Turchia, che ha più di 30 anni, che vive in Italia da 10 anni, che è cittadina italiana da 7 anni, un giorno esce, paga 3-4 mila euro, parla con Corriere della Sera, si fa accettare e si fa pubblicare. Ma cosa vuoi dire allora? Lei ha mai visto una pubblicità del genere in Corriere? Ma no, ma ho capito, adesso non faccio l'esaltazione della sua pubblicità. Ma non è soltanto per una trans, lei ha mai visto una persona che si va, invece di comprare un'altra paio di scarpe, invece di fare un viaggio, invece di comprare un'altra capotta, beh, può essere una grande cosa promozionale, ma hai visto una pubblicità del genere, visto che fa giornalista anche con una radio molto importante? Abate, potrebbe essere una grande mossa pubblicitaria in realtà. No, io volevo andare dalla signora come cliente, ma dopo questi, diciamo, questo suo discorso mi è passata la voglia. Bravo, devo beh. Essere sincero. Beh. Guardi, quanti anni ha? Scusi, mi dispiace. Non importa quanti anni ho, però mi aspetto anche un minimo di una abbastanza... mia. Allora, dalla voce mi sembra abbastanza anziano. No, ma che anziano? Non mi mancano anziani. Sì. Io sto cercando dei ragazzi giovani, quindi può anche non trovare un'altra. Ma perché cerca i ragazzi giovani? No, scusi. Sono più eccitanti, scusi. Lei va con delle signore di 70-60 anni, non preferirebbe una ragazza di 20-25-30 anni per eccitarsi di ma più? Ma perché? E la stessa cosa vale anche per me. Ma da lei vengono un sacco di giovani? Vengono anche giovani, certo. E dunque lei può scegliere, diciamo, talmente tanti clienti che può scegliere in realtà. Sempre. Guarda, non... No, ma è una curiosità. Non vuole essere nominata né come la trans più bella del mondo, né come la nominata? Trans più famosa d'Italia, né come... perché ho tanti clienti che potrei scegliere io. Poi certo che posso scegliere, sono grazie al cielo, da tutti i tempi che ho lavorato, sì. Potrei anche scegliere, ma scelgono anche i trans che bastano pure sulle strade, dicono quando non piace uno, dicono mi dispiace amore, sto aspettando un altro. Allora, la trans non ti vuole. Meno, sì, però la classe più ironica, meno ironica che abbia mai lancia dei messaggi in cui io il signore cerca una ragazza o una trans stupida che non deve parlare. Ma non è vero. Si ammoscia quando parla, non è più eccitato. Beh, devo dire la verità. Non dovrebbe parlare in genere. Sinceramente io sono una persona molto chiacchierona e ripeto anche con i clienti? Dei clienti anche con la mia intelligenza c'è chi anche viene chiacchiera dopo così. Di quelle che dobbiamo fare. Ma di cosa fare, parlate? Parla anche dei 7,40 da questo punto di vista non siamo assolutamente scusi di che parlate dei 7,40 dice Abate sì, scusi. Dei 7,40 vi scambiate i codici fiscali no, non ho capito si parla degli ultimi lei dal PD PDL IDV di che cosa di quale partito è ma lei non è di no io sono ricco di famiglia non ho bisogno allora, d'essere si parla di dei scandali partito. Non lo so una volta si parlava di Marrazzo dopo 3 anni di Marrazzo per esempio adesso c'è un altro scandalo sul Regione Lazio si parla di Berlusconi si parla di Berlusconi cosa, si parla del politica si parla del tempo si parla delle macchine si parla di una fiera che conosce il signor Berlusconi? Conosco tramite televisione che ne so visto mai tutto è possibile in Italia non ho mai visto se sicuramente non gli piacciono i trans piacciono le donne le ragazze e che ne sa lei non lo so io non sicuramente non ho mai avuto incontro con e la signora Lario la signora Lario la conosce no così di sfuggito no non ho conosciuto il signor Lario e la signora Lario fu la persona che mi ha dato queste idee di scrivere una lettera cioè una, in che senso scusi una slogan perché lei aveva scritto una lettera aperta sulla Repubblica il sì come no che certo. Odia il signor Berlusconi di più e che c'entra io non odio i giornali ho scelto soltanto il miglior giornale di Lombardia soprattutto e credo anche di Italia per pubblicare questo slogan che sogno di poter pagare le tasse questa è la cosa voglio pagare le tasse ma lei all'anno quante tasse pagherebbe allo Stato italiano? Io non lo so una quanto guadagna normale, ogni anno tasse, quanto guadagna ogni anno io come vorrei fare come modulo svizzero come in genere là in Svizzera si dichiarano una o due volte all'anno quanto devono guadagnare quanto soldi. Guadagna all'anno lei non dirò mai ma dai su tutto è nero è tutto in nero ma cosa posso fare se tutto è nero ho ma dove li mette i soldi sul Corriere delle sotto Sera. Sotto il letto che lei conduce un programma si faccia sentire la ma sua sono forza, d'accordo io sono d'accordo le 24 ore per farci tastare io sono in contrario sono al top io sono d'accordo ma dove li mette sotto il letto vabbè me lo racconta un'altra volta ciao Fulvio dobbiamo chiudere è una battaglia senza speranze intanto non ti vuole a domani 18:30 love of my life voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza lei ha ragione lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.